Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Era il 2 ottobre del 1951 quando a Wallsend, nella periferia nord di Newcastle upon Tyne, nasceva Gordon Matthew Thomas Sumner, per i più Sting, candidato a 3 premi Oscar, 15 album pubblicati come solista e soprattutto 12 album con i Police. Bene, oggi è la sua festa. Auguri, amico nostro. Grazie. Signori miei, benvenuti a questa nuova puntata di Voice Anatomy. È domenica 2 ottobre, appunto, però del 2016, no, del 51. Sono le 14:35 minuti e 42 secondi, qui in diretta per voi Pino Insegno dagli studi di Roma di Radio 24. Vicino a me due attori straordinari a confronto, ma che lavorano insieme, ma sono due grandissime generazioni anche a confronto. Uno specchio bellissimo e sorride il più giovane. Hai capito? Mi sta facendo far funambolo a me invece, no, di presentarmi. Rispecchiarmi in Andrea Giordano è una bella, cioè lo vivo come un complimento, per cui assolutamente. Adesso vi presento bene. Alla mia destra Giuseppe Zeno, Beppe. Grazie. Zeno, un attore bravissimo, giovane. Se dico bello in maniera etero lo posso dire, insomma, un uomo bello, ma assolutamente sì, ma intenso, cioè una bellezza, no, di quelle, no, occhi, sì, azzurro, sì, no, ceruleo, biondino, eccetera, ma di grande intensità, lo dice anche, no, le fiction, perché lui fa teatro, sicuramente di quello ne parliamo, sicuramente fa fiction. Invece alla mia sinistra c'è qualcuno che ha inventato lo sceneggiato. Quando si chiama sceneggiato, ma si dovrebbe chiamare tuttora sceneggiato, che è Andrea Giordana. Ciao Andrea, benvenuto e benvenuto. Grazie. Grazie Pino, grazie a te. Ecco, sono qui per, soprattutto per presentare uno spettacolo che stanno facendo insieme. Lo faranno il 4, il 5, il 6, il 7 ottobre al Teatro Vascello, o come era prima, era del Vascello quando era un cinema, Vascello di Roma. Che è via Poerio ancora? No, via Carini. Via Carini, perché io sono nato lì, cioè, vabbè, a Monteverde Vecchio, proprio la zona. È il funambolo di Jean Genet e queste due generazioni in scena, straordinarie. Tu, Andrea Giordana, che fai Jean Genet, Beppe Zeno, Abdullah. Il funambolo. Tu sei il funambolo, quello che, già, che poi è una storia vera, che Genet incontra oppure... Sì, sì, è una storia vera, tant'è vero che poi Genet decise di dedicare a questo giovane di cui poi si invaghì un poema, appunto dal titolo Il funambolo, per cui nasce insomma come un poema, non proprio per essere rappresentato a teatro, però noi ci abbiamo provato attraverso, anche grazie insomma alla sapienza di Daniele Salvo, il regista, che ne ha fatto, certo, ne ha fatto una, secondo me, ma credo che Andrea concordi in questo, una bellissima messa in scena. Beh, insieme a noi c'è Melania Giglio. Vedi il grande professionista di una volta che ricorda adesso tutti, anche il tecnico delle luci. Beh, io sono partito da regista, Lo so, è vero, tu ti sei tenuto quelli. Ti sei tenuto buono il regista, Peppe, però. No, ci saremmo. Gli è rimasto il tecnico del suono. Ci saremmo arrivati, fin poi arrivare a. Scherzo. C'è anche Melania Giglio che canti dal vivo, no? Dicevi. Canta in maniera straordinaria, veramente una cantante. A saperlo, facciamo in lei. Mannaggia. Ma guarda, io poco prima che arrivassimo qui. Se non poteva Beppe venire. Io sono venuto dalle prove, gli ho detto, Melania, vuoi venire? Anche perché. Sì, perché Melania... tu stai provando. Questo è anche il sorpasso. No, che no, farai... io ero alle prove con loro stamattina. Ah, con loro stamattina, che pure te sei un etrino. Sì. Ho lavorato un po' con i ballerini, per cui è più poi sono trino venuto che qui uno. E poi nel hai lavorato con i ballerini? Con i ballerini, sì, vabbè, il corpo di ballo della, dello spettacolo. Ma mi danzi, spettacolo. Beppe, mi danzi. Accenno a qualche movimento, dai. Anche nel Grandi Camorristi tu ballavi tantissimo. Sì, sì, lì barlavo più che altro. Di dove sei, Beppe? Io sono originario di Ercolano, però sono cresciuto in Calabria, per cui mi ritengo un po' metà e metà, seppur di sangue partenopeo. Reggio Campano sei? Reggio, sì, Vibo Marina. Vibo Marina, Vibo Valencia. E tu, Andrea, invece? No, devo dire che si spende molto fisicamente Giuseppe in questo lavoro. Sì, ma se non lo fa lui, Andrea. No, beh, certo, ha l'età per farlo e deve farlo, ma lo voglio dire, non tutti lo fanno, ecco, certo, lo fanno, non lo tutti fa poi sono pure attori di un certo livello e Beppe lo è. Certo. Questo lo dico non come amico, ma perché mi viene giù la lacrimuccia, No, no, te lo dico, sai quanto c'è la stima parla, cioè, quello che fai parla da solo, non è che hai fatto scorciatoie o talent che ti hanno portato ad essere quello che sei in questo momento. La gente ti apprezza e ti vuole bene e ti stima perché in ogni declinazione che tu ti esponi, guarda, riesci a raccontarlo bene. Tu fai questo lavoro da tantissimi anni, Andrea, anche sai benissimo che poi al di là di quello che poi è l'esito finale, l'importante è fare questo lavoro sempre con grande onestà, darsi completamente, altrimenti non avrebbe senso. Insomma, tu pensa lui da quando ha incontrato la Bade Faria a oggi quanto è passato, Andrea, cioè quella è stata la tua tegola meravigliosa, però tu il Conte di Montecristo t'ha segnato. Ah, sì, proprio graffiato. Vabbè, ma tu avevi 20 anni quando hai fatto il Conte di Montecristo. 19. Scusami. Poi 19. Sei anche un figlio d'arte, tutto tondo, Claudio Gore e certo, Marina Berti sono i tuoi grandi genitori. E ho un figlio anche lui in arte, che è Luchino. Che conosco Luchino, che è bravissimo. Sì. Per cui tu hai mosso i primi passi quando l'ho sceneggiato. Accendevi e 25-30 milioni di persone lo vedevano. E poi c'era questo. Lo vedevano anche perché era bello, no? Perché c'era solo quello. No, per il fatto che ci si affidava alla grande letteratura. Certo. Non c'era ancora lo sceneggiato, l'originale televisivo, quello che poi sarebbe diventata la fiction nostra, insomma. E quindi c'erano tematiche, attori, io per Montecristo c'avevo tutto il teatro italiano, ma veramente sì, tutto. Sì, c'avevi l'Empals intorno che pesava, quella vera. Sì, che, sì. Adesso insomma è un po' più difficile trovare i vari Cerri, Stoppa, erano attori insomma anche loro, no? Che hanno preso parte a diversi sceneggiati, era veramente un livello alto. E la vorrei che era queste molto generazioni alta. Nuove, non solo di attori, ma anche le persone riescano a capire chi erano questi grandi, cioè Claudio Gora, tuo padre, e Marina Berti, insomma signori, sembra andare a vedere, adesso c'è di Wikipedia, ma senza di loro molto cinema e molto teatro non si sarebbe fatto, sicuramente. Levando i protagonisti che ci devono essere, perché parlavamo del Sorpasso che sarà la prossima fatica di Beppe tra un teatro. Po' a teatro eccetera, e dove una delle parti importanti era Claudio Gora, era il padre di Catherine Spacchi, che era la moglie o ex moglie di Gassman nel film, e come lo faceva quel commento. Una curiosità, lo sai che ci sono anche io nel Sorpasso? No, stai sulla spiaggia che balli Peppino Gagliardi. C'è una partita di ping pong. Sì. E questa partita di ping pong, se andate a vedere bene bene, facciamo una figurazione, io e mio fratello Carlo, che ha un anno più di me. Lo rivedrò frame by frame. E quanti anni avevi quando hai fatto? 16 anni, che ne so. Ma hai cominciato subito? Com'è? È nato il Conte di Montecristo, non è nato per caso. Cioè, Pino, non lascia stare. No, leva il conte. Allora parliamo di Sandokan, visto che magari è un santo. Sandokan è una stronzata, ma era una battuta. Sì, tu sei saltato da lì a lì, cioè hai fatto proprio anche un cambiamento importante, epocale ci fu con Sandokan. Ma io nel Montecristo, a proposito di voce, ero abbastanza riconosciuto proprio per la voce. E qui parliamo di questo. Sandokan, no, ma sai, quell'evoluzione che ci può essere stata è proprio, diciamo, fisiologica. Sì, sei cresciuto anche d'età. Tecnica, perché nel Montecristo io ho dovuto fare le prime tre puntate con la mia voce naturale, poi dalla quarta in poi ho dovuto invecchiare, quindi impostare la voce per renderla un attimo più grave, più misteriosa, più severa. Sì, quello sicuramente. Mi sta dicendo Mauro, uno dei nostri autori, che io saluto insieme ad Alessia Navarro, e dall'altra parte del vetro Valerio, tecnico del suono Gaia, che ci aiuta sempre in Milano, che ci manda in diretta assolutamente. Allora sta accendendo le luci perché sapete che andiamo anche su Facebook in diretta. Per chi vuole il potere evocativo della radio può continuare ad ascoltarci come fa sempre per radio. Quanto sei social. Ma quella è colpa loro, perché per me è un libro con le figure si chiama fumetto, a radio con le immagini si chiama televisione. Però insomma, siccome va per radio, la gente l'ascolta per radio, però per quelli più giovani, più brillanti, che vogliono anche scoprire delle facce, oggi ci stanno delle belle facce. Noi ci dobbiamo togliere gli occhiali. Ho capito. No, vabbè, no, chi se ne frega. Io ho messo pure la maglietta del Signore degli Anelli perché tanto per ricordare che facevo l'orefice. Senti Beppe, tu hai la passione del mare. Ma guarda, io non ho, sì, la passione mi è rimasta chiaramente, però più che passione è una sorta di ossessione, perché il mare comunque ha sempre rappresentato per me un elemento importante. Io sono nato in una città di mare. È stato l'istituto tecnico nautico. Sono poi andato in Calabria, mio padre aveva un peschereccio, quindi io tutte le estati le passavo in barca, era una croce, ma sin da piccino insomma mi toccava lavorare. Pure è diventato. Ma che mi fa? Toccava lavorare, andare su queste tavole di legno. Ce l'ha la fascia da skipper levigata dal tempo, sì, Andrea. Sì. È credibile. Vai bene, gli facciamo ragazzi. Fare calma piatta. Esatto, ore 10. Ore 10 calma piatta. Il film no, che fu poi interpretato Nicole Kidman e l'altro attore, non ricordo bravo, il nome, esatto, uno di quegli attori che non comunque è fantastico, un pazzo, sì, lui. No. Sì, no, il mare per me è importante, quindi io sono sceso dalle tavole della barca, del peschereccio, e ho sposato insomma la causa delle tavole del palcoscenico. Ultimamente non hai sposato soltanto le tavole del palcoscenico, ma quelle altre trasmissioni, altre situazioni. Questa è Voice Anatomy, non è Anatomy e basta. Noi abbiamo finito il primo blocco, rimanete ovviamente con noi, fra pochissimo torniamo. Voice Anatomy ne appena cominciato. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Voice Anatomy. Eccoci di ritorno con i nostri amici Andrea Giordana, che mi stava raccontando qualcosa dello spettacolo del Funambolo, e Giuseppe Zeno, che io chiamo Beppe, non so se va bene Beppe. Ma chiamami Beppe, siamo amici, cioè, sì, io sono Pino, io ti amo, fatto scopa col nome, io. Beppe, Pino, alla fine siamo gli unici a non essere chiamati Giuseppe. A me, esatto. Chiamatemi Andy. Dai, così all'improvviso. Se no rimango fuori. Però se dovessimo fare uno spettacolo insieme io e Giuseppe Zeno, bellissimo, perché tutte e due Pino, magari a Natale, pensa che bello spettacolo che ho. Ah, il Pino nel Natale. Beh, sì, c'era questo collegamento. Beh, ma ti vedo un attimo in ritardo sulle cose, santa miseria. No, ci arrivo e io chiedo perché, per vedere se realmente ho capito la cosa. Però mi sembra che le acchiappo tutte, dai. Tutte, piano piano tutte. Qui ci fanno i complimenti, vi fanno i complimenti, e poi quando saranno cose ancora più interessanti magari le racconteremo, lo sapete, andate il numero 349-238-6666 per i vostri sms. Poi nel frattempo siamo anche in diretta. Andrea, questo Funambolo ti sta occupando in questo momento storico, poi ne parleremo anche nell'altro blocco, prima che voi torniate alle prove ovviamente. Che succede nella tua vita, dalla tua vita in su? Vedo che sei discreto. Esatto. Ma non volevo dire perché dalla vita in giù ci siamo di me. No, no. Non mi permetterei mai. Quello ne parlavo con Zeno, che bravo. No. Cosa succede? Non ti sei mai fermato? Io mi ricordo, ne parlavamo prima, ancora un tuo Beckett, il suo re bellissimo, con Giancarlo Zanetti. Sì. Quello è stato un bel momento della mia vita teatrale, soprattutto per la regia di Aldo Trionfo, che per me è stato il mio vero assoluto maestro. Vero e unico direttore maestro dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Sì, no? Ma poi proprio grande. Per me ho imparato solo da lui, dagli altri un po' meno. Tu poi hai navigato, ti sei declinato anche te ovunque, cercando proprio di raccontarti tridimensionalmente. Dove ti trovi meglio? Ma secondo me è un po' è una domanda che uno fa, ma è dappertutto. No, io mi diverte abbastanza l'uomo di spettacolo americana, cioè quelli che fanno un po' tutto. Certo, non fai tutto bene nello stesso modo, però ti devi fermare un attimo prima che la gente capisca se lo sai fare. Esatto. E a parte quello, comunque sono esperienze che secondo me un tipo di esperienza arricchisce l'altra, cioè la prontezza che hai quando fai il presentatore, il conduttore in televisione, ti insegna a essere pronto, che qualunque cosa succeda devi risolvere e stare sempre con l'ascolto. Invece molti fanno questo lavoro non ascoltano, quindi anche dei grandi giornalisti accade questo, per cui sono preoccupati di chiedere, di vedere la domanda da fare dopo e non sentono che quello lì che ha risposto ha detto una cosa che invece poteva essere motivo. No, sì, ci sono anche tanti attori così, no? Quando ti trovi in scena con persone che sono sorde. Che sì, gente che non ti ascolta. No, esatto. Dicevi? Sì, esatto, ma ci hanno battute loro. Non ho capito. Come? Bene, siamo in diretta per la legge 180 con Giuseppe Zeno e Andrea Giordana. Anche tu, insomma, non hai lesinato un teatro, Padroni Griffi, eccetera. No, io non l'ho mai lesinato perché la trovo sfortunato. Sì, forse non ho vissuto, non ho avuto la fortuna di vivere, diciamo, il così detto momento d'oro, sì. E lo dico anche con molta nostalgia, perché sarebbe stato fantastico, insomma, approcciarsi e confrontarsi comunque con dei grandissimi. Beh, oggi però, purtroppo a mio modo l'ho fatto, però è chiaro che viviamo un'altra stagione, no? Un po' di confusione totale, dove anche le forme di intrattenimento secondo me si sono un po' non fuse, ma dico confuse nell'immaginario delle persone, per cui la tendenza è quella di non considerare spesso quello dell'attore un mestiere vero e proprio, ma di sì. Voglio dire, affiancarlo ad altre forme di intrattenimento, per cui si fa grande fatica oggi. Sono d'accordissimo, questi talent hanno fatto il resto, insomma. Cioè... Sì, no, non è assolutamente la mia un'accusa nei confronti dei talent, no. Ecco, forse la televisione potrebbe sicuramente aiutare tantissimo. Questo, anzi, il fatto che tu ci abbia invitato qui oggi non è una forma di ruffianeria, no. Ma io ci tengo a ringraziarti perché oggi di teatro è veramente difficile parlarne e tu che ci hai dato questa possibilità con un testo come quello che stiamo andando a rappresentare. Bello però. Ti ringrazio davvero perché dimostra che hai grande sensibilità. Oltre a essere un cacchione, questa funambola da parte di Genè è una esortazione, una spinta ad osare. Lui, Abdallah, che era suo amante, che lui seguiva nella tournée del Circense, eccetera, faceva salto in banco a terra. E lui vuole provare a fargli fare questo salto di qualità, a metterlo sul filo. Che questo anche da un punto di vista, come dire, è una metafora, certo, metafora proprio, un equilibrio, questo filo sul quale tutti noi camminiamo. Bene o male, con precario equilibrio, ma che però non ci va davvero sul filo, Beppe, spero. Questo chi viene a teatro lo può scoprire. Io chiama Massimo Ranieri, lui riesce a cantare sul filo. Poveraccio, mi ha detto che sei strappato ieri. Ma io dico con tutto l'affetto, perché gli voglio un bene dell'animo, gli voglio un bene tutti, ma tu non puoi cantare le tue canzoni mentre fai i piegamenti a terra sulla sbarra, fai rondata flick e doppio salto mortale e canti Se bruciasse la città. Lui è così. Vabbè, per la serie fin quando il fisico reagisce, anzi voglio dire questo. Dimostrazione mille, del fatto sta che sta mille. Certo, a me sarebbe piaciuto, insomma, scendere al compromesso di salire veramente sulla fune, però per ovvie ragioni non si può di fare sicurezza, no, di perché... sicurezza, per anche forse i tempi non ce l'hanno permesso. No, devi avere la fune tirata su, fissa dall'inizio. È una cosa molto delicata. Sotto, ecco, finché rimani sul suolo, riesci a fare tante cose, come dicevamo prima, anche forse a farle bene o male, però a renderle, a fare comunque arrivare al pubblico. Ecco, quello è un'arte vera e propria, molto difficile. Dai. Quindi noi cerchiamo di rendere, però ci sono dei momenti molto aulici in cui questo viene reso, sì, al pubblico. È un testo che ha una grande poetica, quello che proprio mi ha convinto la prima volta che l'ho letto. Immediatamente ho detto sì, perché non ero neanche sicuro di aver capito tutto quello che avevo letto, ma sono stato invaso proprio da una colata di poesia. Che bello. E poi una colata di poesia imprevedibile, perché Genè è un autore non facile, perché lui, la sua scrittura nasceva, diceva sempre che era come quando sognava. Per lui scrivere significava sognare, soprattutto evadere da quel carcere dove ha passato tanti anni, e per cui diventava una forma di evasione, no? Questo uno spettacolo nello spettacolo, un uomo, sì, che ha vissuto come se fosse uno sceneggiato davvero. Un autore Vedi, molto controverso. Hanno corretto e hanno ragione, io ho parlato a memoria. Ora Bibi nel sorpasso era l'amante della Spark, no? E la figlia era di Gasma, giustamente. Era Bibi, sì, è vero. Complimenti, sì, ancora, sì. Eccetera, eccetera. Su Facebook dove? Beh, la pagina di Voice Anatomy, ovviamente, non sulla mia, insomma, la pagina della trasmissione, assolutamente. No, sono proprio attenti. No, questi non... Non parte... te ne passano no, non gli ne... scappa niente. No, ma loro sono... Ti ho detto, il più stupido, c'ha tre lauree qui, nel senso che io se dico dico una cosa sbagliata, anche la pronuncia sbagliata mi arrivano addosso. Pensate, la prima puntata un anno e mezzo fa è esordito, complimenti eccetera, ma c'è stato un messaggio che mi ha fatto morire da ridere. C'era, dice, finalmente Pino Insegno la domenica per radio, così posso accendere l'aspirapolvere e pulire la casa visto che avete la stessa voce. Bene, grazie signora, è stato un augurio di inizio uno startup della trasmissione, niente male, o te ne vai. Di dov'era questa signora? Non lo so, però lo dico sempre che è divertente anche, ma se quando le critiche sono giustificate, sì, o sono ironiche, ci sta. L'offesa gratuita no, ma questa poi è una trasmissione, diventa anche un servizio perché ci sono tanti tutorial, tante cose, anche una notizia come questa, cioè andare ad abbracciare due persone come voi. No, io stasera accendo l'aspirapolvere e cercherò di capire, cioè, ma sei Pino. Beppe, ma sei amico mio, ma santo Dio, sto facendo pubblicità che non ne avete bisogno, ma insomma, cioè il teatro, il Vacello poi è un teatro bellissimo, era un cinema tantissimi anni fa, e si apriva il tettuccio sopra perché si fumava al cinema tanti anni fa, si apriva il tetto, era un cinema di seconda edizione, è un bellissimo teatro. No, io la prima volta, è la prima volta che ci andrò a recitare, insomma, ho avuto modo di frequentare altri teatri, però il Vascello non ha, ad oggi non mi è mai capitato, per cui ne sono doppiamente felice. Bello, molto bello. Dicevi sottovoce? Tanto c'è un altro blocco per ricordare. Sì, no, volevo solo ringraziare anche Marioletta Bideri, che è la produttrice Bistrimila, che produce il Funambolo, perché dobbiamo dire, no, solo una cosa brevissima, dobbiamo dire, perché oggi non c'è tanta gente così coraggiosa da produrre uno spettacolo come questo. Ma soprattutto non c'è gente coraggiosa da produrre il teatro. Ma andiamo in pubblicità due minuti, torniamo e chiudiamo con voi altri 10 minuti e poi di corsa alle prove. Poi parliamo anche del coraggio che ha avuto Pino, Sì, non lo so quale, no, però dopo lo raccontiamo. Forse, perché io un giorno giocando a pallone con lui mi sono levato la maglietta vicino a lui, questo è stato l'errore. E ci vuole duro coraggio. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno a Voice Anatomy. Alla mia sinistra Andrea Giordana, e alla mia destra Giuseppe Zeno. Sono qui intanto per parlare di voce, di teatro, ma soprattutto anche il loro, soprattutto il loro teatro, il Teatro Vascello, il 4, 5, 6, 7 ottobre con il Funambolo di Jean Genet. Andrea, ma tu sei stato anche un cantante, tu hai inciso dei dischi, cioè la cosa che non ci avevo letto, perché ormai non si sfugge più. Allora, si può dire sta cosa oppure non mi parli più? Tutti i miei errori si possono dire. Si possono dire quasi. Tutti, anche quello di essere venuto oggi, dici? Dunque, allora io feci una cosa a cui tenevo molto. Intanto feci un disco, 33 giri, io però facevo poesie d'amore alternate a tutti i grandi cantanti, Mina, Dalla, cioè, fatto per cioè, l'etichetta non me lo ricordo, però era veramente una bella cosa. Per San Valentino. Poi feci una canzone che era in teatro, facevo Le farfalle sono libere, che è una commedia americana molto carina, e io facevo un cieco dalla nascita che aveva la passione della chitarra, faceva un po' l'autore di questa canzone, e a un certo punto dovevo cantare in scena. Per cantare in scena abbiamo chiamato a scrivere questa canzone Nico Fidenco. Ah, oddio. Il quale mi ha fatto il la e il B, no? Certo, il lato A e il lato B. Le farfalle sono libere, era il lato A. E le farfalle sono incarcerate. L'altra invece era un'altra canzone che è andata bene. Non lo so. È andata. Beh, insomma, poi di quello che vuoi, tanto non la ricordiamo. No, viene fuori quello che fai. Valerio, si può trovare Le farfalle sono libere da qualche parte? Perché se c'è, io ma voglio sentire, no, pure Zeno sta con io brividi. A questo punto sono curioso. Però mentre sta cercando se dovesse esistere la possibilità, noi ci ascoltiamo un pezzetto del Conte di Montecristo, però. Preso da Rai Radio 3 ad alta voce? Non lo so, è preso dal tuo Montecristo. Spero di sì, perché quella è stata un'altra emozione enorme, rileggere tutto il Conte di Montecristo. No, tutto romanzo. Non facciamo tempo di andare via fra 10 minuti. No, ma 44 puntate ha fatto. No, questo è tratto dallo sceneggiato, un momento così come facciamo ogni tanto, un piccolo trailer, vai. Che stava facendo al momento dell'arresto? Ero al pranzo di fidanzamento. Pranzo di fidanzamento? Sto per sposarmi. Domattina ci aspettano al comune per il matrimonio civile e poi in chiesa. Continui. Cosa? Devo continuare. ad illuminare la giustizia. Vorrei solo che lei mi dicesse su che cosa io debbo illuminare la giustizia. Ed io... Lei ha prestato servizio militare con Napoleone Bonaparte? No. La mia leva doveva partire proprio quando lui fu deposto. Sono sempre stato marinaio. Tra i documenti che lei ha sotto gli occhi ci deve essere la mia carta d'imbarco. Vedo. Pare che lei abbia manifestato un certo fanatismo politico. Io? Ma non ho idee politiche io. L'ambizione di diventare capitano della mia nave. Sposarmi. Ma altre idee? No, davvero. E invece ce ne avute tante di idee, Andrea. Con chi ti stavi interfacciando qui? Tarascio, Enzo Tarascio, sì. Ma se, poi, dimmi. No, c'è una cosa che prima che finire. Io ho un desiderio prima di morire, lo devo... Io voglio, voglio fare doppiaggio di un personaggio di cartoni animati. Perché? Ma guarda, è più mi facile diverte, farlo. Mi diverte. L'hai detto e ti metti... Ti proporrò. Tu ne hai fatti tanti. Sì, no, vabbè, io ne ho fatti tanti fra cartoni e... Beh, sono più difficili i cartoni, sai? Sì. Sì, perché non hanno l'anima che gli devi dare tu. Mentre un attore, quando lo doppi, ecco, dovessi doppiare te, un attore c'ha la fisicità, l'espressione, la forza della voce, eccetera, eccetera. Dovessi doppiare Zeno, no, sarebbe complicatissimo. Rido perché una volta ero in sala doppiaggio proprio a doppiare me stesso, in maniera una sua telefonata. Dicevo, Angelo, che stai? Dove stai? Sto in doppiaggio, sto finendomi di doppiare in uno sceneggiato. E lui fa: ma che te rovini da solo? Stai rovinando. Tu rifaccio io, sta tranquillo. Altro, a casa. Per cui la prossima volta, io da contratto ormai ho Pino Insegna, esatto, che mi doppia. Alleggerisco un po' e vado. No, invece no, perché c'è un bel vocione. Per cui, che dicevi prima, la cosa, aspetta, la cosa che mi diverte è del coraggio. Ma c'è, tu hai recitato per la regia di Sandro Bulchi nella coscienza di Zeno, sì, e la tua nemesi ti ha portato a lavorare con Beppe Zeno. Cioè, questa, forse era questo che voleva dire il tuo destino, esatto, in qualche modo. Guarda, lasciamo perdere, è stato il mio argomento a piacere agli esami di maturità. Bellissimo. Portavo italiano, per cui tu puoi ben capire che la prima domanda che mi fece poi l'insegnante fu: hai letto La coscienza di Zeno? Io, ma va, ma va, memoria. Ma va. Quindi quella è stata un po' la mia fortuna. Eh sì, io mi chiamo Insegno di cognome, no, penso io, lui prima stava parlando del coraggio che hanno alcuni produttori nel voler comunque mettere in piedi e sostenere anche, perché no, delle con operazioni che non sono con grandi rischi, poi anche delle operazioni che non hanno un sapore prettamente commerciale. No, non ce l'hanno per niente. Però questo signore che oggi ci sta intervistando, io ho memoria, ho assistito a uno spettacolo su Frida Kahlo, anche quello non era assolutamente uno spettacolo, una produzione commerciale, ma lo produceva e lo spettacolo era molto molto molto bello, la sua signora era la protagonista dello spettacolo ed è stato un gran peccato non averlo potuto, insomma, portare in tutta Italia o dare allo spettacolo stesso il respiro che sicuramente meritava. Sì, così come il tante teatro altre cose. Lo sapete perfettamente, come il delitto non paga, perché il teatro c'ha il 67% di tasse tutti, certo, i giorni, certo. C'è il mondo, c'è i soci maggioritari che non rischiano niente come dappertutto, per cui, ed è bello invece sapere che esiste il teatro, è l'unica parte dove veramente sei nudo. Ora se mi spoglio io è brutto e non vale il prezzo del biglietto, qualcun altro magari sì, ma dove sei nudo, dove devi realmente dimostrare ma quello, no, che nudo, vali nudo nel senso stai lì da, sì, solo, non hai altri non filtri, aiuti, non puoi non, cioè, puoi, non puoi barare. La gente ha tolto la macchina dal parcheggio sotto casa, lo deve trovare davanti al teatro, deve prenotare, venire, mettersi tu, dopo andare a mangiare, eccetera. Tu non gli puoi dare una fregatura col teatro, non devi. No, cioè, è proprio... No, è l'unico pubblico che non ti risparmia niente, ma io credo che, esatto, anche dal punto di vista di un attore sia decisamente più bello, più appagante per tantissimi motivi che non stiamo qui ad elencare, ma è vero, cioè sei tu il pubblico da solo. C'è una cosa, no, nel funambolo che poi appunto viene detta. Tu non riuscirai mai a conquistare la vera solitudine che ti serve per poter affrontare il filo se non in presenza del pubblico. Certo. Tu senza pubblico sei niente, non riuscirai mai a raggiungere quella vera solitudine, per cui tu devi in qualche modo avere il sostegno, no? Che bello. Dall'altra parte. Vedi che bello. Sì, non avere più nulla che ti tenga legato al suolo. Quindi questo isolamento... Che è tipico anche, no, di, voglio dire, un attore che sta per affrontare una scena particolarmente intensa, drammatica, cioè ha bisogno di crearsi un guscio nel quale proteggersi per rimanere concentrato, per non avere tutti questi disturbi dall'esterno che poi... Però che mestiere che si fa? 3.000, ma in questo testo perché è talmente bello e pieno di poesia. Proprio perché parliamo di queste emozioni. Io faccio l'attore perché mi trovavo una volta a sfilare per il più bello d'Italia e mi sono... Io non so, per me è finita la prima puntata il più bello d'Italia. No. L'hai fatto davvero il più bello d'Italia? No, assolutamente no. Non ero tanto bello, Pino. No, io ho cominciato ad appassionarmi al teatro perché, essendo cresciuto in una realtà come quella di Napoli, si faceva molto teatro a scuola, e poi all'età di 10 anni, quando mi sono trasferito in Calabria, ho avuto la fortuna di incontrare un insegnante di educazione fisica alle scuole medie che aveva una compagnia di teatro. E lì mi sono appassionato, facevamo il teatro di pomeriggio a scuola e quel mio approccio con questo nuovo mondo che non conoscevo anche linguisticamente, perché io venivo dal napoletano, tutti parlavano così, no? mi sentivo una mosca bianca, ero molto chiuso e trovavo, insomma, nel pomeriggio, nelle ore in cui si faceva teatro, una sorta di apertura e di possibilità anche di aprirmi nei confronti degli altri, di modo di far conoscenza, i nuovi amici, per cui rappresentava per me un momento importante, delle ore bellissime. Poi l'ho praticato un po' sempre con delle compagnie in dialetto. Facevano delle commedie di De Filippo in dialetto calabrese. Sono cresciuto così. Poi a 19 anni ho deciso di farlo diventare il lavoro della mia vita. Sono venuto a Roma e il resto poi è iniziata un'altra fila. Il resto è Wikipedia. Il resto sono 20 anni. Ecco, esatto, scherzando e ridendo. È il luogo dove incontri le emozioni. Quindi, che cosa c'è di più bello per un uomo? Dostoevskij, nell'ultima riga delle Notti Bianche, dice: se un uomo riesce a vivere anche un solo secondo un'emozione, quella vita valeva la pena di essere vissuta. Il teatro è veramente una cassaforte di emozioni. Ma è meraviglioso, è quello dicevo, sei davanti a loro, è la cosa più bella. A me dispiace solo quando si chiude il sipario e poi nel camerino si riapre e se ne sono andati, non ci sono. Ma la bellezza del teatro è proprio la possibilità poi di poterlo comunque riaprire e farlo crescere. È come se tu fai l'amore con una persona e quella chiama il taxi e se ne va, non me va. Infatti io quando faccio teatro la cosa, a certe volte rovino anche lo spettacolo, che è rimasto, e tu lo sai, 10 minuti a ringraziare chiunque, comunque è una scusa anche per interfacciarmi con loro. E Garinei mi diceva sempre: insegno, lei è l'unico che riesce a dire 1000 parole inutili al posto di un semplice grazie. Alla fine lei ce l'ha una casa, vada a casa, ha fatto uno spettacolo, è bello, chiuda il sipario e vada via. C'è gente che lavora. Bello, è bello sicuramente ringraziare. Però è una meraviglia. Dopo di questo continui, questo si ferma qui il funambolo al questo vascello, si ferma qui l'anno prossimo, per adesso insomma credo ci sia questa, anche se poi questo è uno spettacolo, secondo me, guarda, non lo dico, bello. Talmente bello che io continuerei a provarlo all'infinito, no? Certo. Che è anche un po' la bellezza del teatro, lo spettacolo nasce durante le prove, perché parlare di spettacolo finito a teatro non è mai appagante, è proprio la particolarità, la peculiarità, la bellezza e il fascino del teatro, dell'essere a teatro, farlo crescere continuamente e trovare continuamente nuovi stimoli in quello che stai facendo, ma soprattutto in quello che riesci a ricevere poi dagli altri colleghi in scena. Andrea, tu non guarda così, questo ovviamente la firma dove parla di Dostoevskij, sembra mansueto così, sì, ma una bestia. No, è veramente. Ma lo vedi, un bambino di 70 anni questo. Eccolo qui. Sì. Hanno più forza loro, Beppe. Lì devi succhiare. Succhia no, forza. No, ma ci stiamo divertendo. Questo ti cammina sul filo, ti ruba la parte. Questo sale. Ma sul chissà che uno non se lo ritrovi sul filo dal 4 al 7 ottobre al vascello. No. Non lo so, non lo so mica. Quella è una sorpresa, non la diciamo. No, Giordano, non lo fate, prego. Dici, ti ricordi il povero Giordano? So quello che è successo. Ha voluto per forza camminare su sto filo, ma non riconosce più manco i parenti. Non lo fare, Andrea. Non si deve fare, lasciamolo fare a qualcun altro, ai giovincelli. Sì. E dopo questa avventura del funambolo, Andrea? Io ho la ripresa a marzo del Bugiardo di Goldoni, con Geppi Gleiezes. E andiamo avanti fino a aprile, finiremo a Parigi alla Cartoucherie. Che vuoi? Beppe, allora vi dico poi che farò io, finirò a Los Angeles la trasmissione. Vabbè. Invece Beppe rispondi, reagisci a queste cose. Lui mi fa il bugiardo e secondo me sta di una bugia. Io avrò una primissima tournée. No, io sono in prova con uno spettacolo dal titolo Il Sorpasso, chiaramente ispirato al film di Dino Risi, che mi vedrà in scena insieme ad altri bravissimi colleghi del prossimo anno. Luca Di Giovanni, un giovane attore mio coetaneo, no? Tu hai tutta la trasmissione che mi definisci giovane attore, ho capito, però... ma siamo vicino ad Andrea Giordano, che è un attore maturo. Beh, però io mi riporto bene, ti porti a dire, lui si porta veramente ma tu male. Devi vederlo come si riscalda. Tu, Andrea Giordano, ha vissuto mentre si riscalda prima di provare, e lo so, come si riscalda, ma la voce soltanto, perché poi la voce stretching, a un certo punto vedi a terra gamba all'aria, ma... no, fidati, ti dicevo male. Molto brevemente, poi non ti ruberemo altro tempo. Sarò in tournée col Sorpasso. Intanto sto finendo di ultimare le riprese di una serie Rai con Vanessa Incontrada dal titolo Scomparsa, un giallo, una storia abbastanza inedita per Rai 1, e poi inizierò un altro progetto per la televisione. Insomma, professionalmente abbastanza impegnato, quindi sono felicissimo, è sempre quello che ho cercato, quindi evviva, aspettando il cinema, waiting for... Sì, ma lui è andato, va a Parigi. Io? Tu dove finisci? Almeno il viaggio di nozze. Beh, io dovrei andare tra San Giuseppe e Vesuviano e a Cerra. Cerra Versa, poi faremo Battipaglia più giù verso poi saliremo un po' verso la Toscana, ci arriviamo a Grosseto. Finisci il teatro dove finisci tu? Qual è? Come si chiama il teatro dove sei? Le Cartuscerie. Beh, dov'è? Che zona? Parigi. Questo mi freghi perché non me lo ricordo. È l'ultima, dopo l'ultima fermata della metropolitana. Sì. Non c'è quel fiorista, c'è Jean-Louis che vende le baguette. Il fiorista, diciamo, questa che ne so, lì. Sì, ho detto una stupidaggine. No, questa di Parigi la dovevi preparare meglio, Andrea. Comunque, col Sorpasso saremo a Roma, a Roma al Quirino a febbraio. Esatto, no, lui fa il bugiardo, ma ha fatto in tutti i modi. Poi faremo anche Milano a maggio. Tu farai Milano, fatto il Quirino, ma smettila, non ti ascoltiamo più noi di questa generazione, non ti ascoltiamo. Bravi. Signori, in bocca al lupo, tanta merda come si dice a teatro, niente crepi il lupo, merda, sì, assolutamente. Andrea Giordana, grazie davvero, buon tutto, grazie. Però nella prossima trasmissione racconta al pubblico perché si dice merda. Sì, guarda, diciamo in due secondi, ma stiamo sforando leggermente. Sforiamo, lo racconterai in una prossima trasmissione. No, ma è facile, perché insomma fuori teatri nell'antichità, insomma, quando andava tanta gente a teatro, c'erano tante carrozze, c'erano le macchine, c'erano tanti cavalli. Più cavalli c'erano, più c'era quella cosa che abbiamo nominato si fino fermavano adesso, per cui più ce n'era di quella, più cavalli c'erano, più gente c'era all'interno del teatro. Questo per è cui il significato. merda tutti quanti, funambolo 4, 5, 6, 7 ottobre al teatro Vascello di Roma. Grazie Andrea Giordana, grazie a Giuseppe Zeno. Noi andiamo avanti con Voice Anatomy, con la nostra attrice doppiatrice di turno, la grandissima Giorgia Lepore. A tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta Voice Anatomy. Siamo tornati, scusate, per chi ci sta seguendo anche in diretta su Facebook e Voice Anatomy sa che c'è grande movimento qui in studio. E allora, dopo Andrea Giordana e Giuseppe Zeno, come ho detto, tocca alla nostra attrice, doppiatrice di turno. Lei è straordinaria, è veramente voce volto, per chi sta guardando attraverso il video si renderà conto della bellezza di una donna. Cioè, vedete me, vedete Cameron Diaz, no? Proprio uguale. Ma che c'entra, vedete me, vedete Jamie Foxx, ma che vuol dire? Dai, non c'entra niente, sei una donna matura, cioè... Si può dire quanti anni? Ha detto matura, ciao. No, Lepore, dai, ti prego. Sì, si può dire. 51 appena fatti. Cioè, capito? Dai. 51 appena fatti, non Lepore, sei strepitosa. Non lo dire, non usare quel termine inglese orrendo. Quale? Per favore. Ecco, appunto. No, no. Non l'ho detto io. Ah, no, quello no. Allora, tu sei anche sorella di un altro bravissimo doppiatore, che è Davidino Lepore, che chiameremo molto presto questi microfoni. Lei è la voce di un sacco di bellissime donne, da Cameron Diaz, da la spagnola Penelope Cruz, che però poi a un certo punto ha cominciato a recitare in italiano. E quindi... è vero, ha cominciato a recitare. E quindi, ciao. E adesso canta anche. Però canta, tu sei anche napoletano. Sei anche la principessa della storia infinita. Sì. L'imperatrice. Quant'è che fai? L'imperatrice di Fantasia. Di Fantasia. Tanto, perché ho cominciato a 7 anni, quindi ce n'hai, conti. Ce n'hai 21. Ce n'ho 21. Cioè sono 44 anni? Come i gatti, sì. Oddio. Esatto. 44 anni che fai questo mestiere. Ci sentiamo una Giorgia Lepore dannata? Non è dannata. Dannata è, nel senso maledetta. Nel senso di apostrofo annata. Però mi voglio sentire Renée Zellweger, raddoppiata in Jerry Maguire, quel bellissimo film con Tom Cruise. Ce l'abbiamo, vero Valerio? Vai. A quanto pare hai un ammiratore. Wow. È molto più di un vestito, questo è un film di Audrey Hepburn. Sì, credo di essermi un po' entusiasmata all'idea di passare una serata tra adulti, senza offesa, amore. Jerry, conosci Chad? Chad, Jerry, sì, Jerry, Chad. Sì, ci siamo. Sono vestito bene, non mi ero reso conto. Ma non si può usare questa cosa! Chad, non farlo stare sveglio fino a tardi, d'accordo? Io stasera voglio cominciare a insegnare a Ray qualcosa sul jazz. Perfetto, così si addormenterà presto. Ehi! Vai avanti, ti raggiungo alla macchina. D'accordo. Solo le chiavi, niente di grave. Ti rendi conto? È la prima volta da quando è nato che lo vedo baciare un uomo come se fosse suo padre. Non è stato emozionante? Sì, come no. Chissà quanto deve averne sentito la mancanza. Sta tranquilla, non piangere all'inizio di un incontro. Sì, piangi alla fine come faccio io. Sto bene, pianta. E non diventare la spalla su cui farlo piangere, non dico altro, nient'altro. Va bene, le chiavi. Eccole. Ciao. Oh mio Dio. Beh... Ma io l'ho adorato questo film. Il film è veramente adorato. Bello. Lì era Roberto Chevalier. Ciao Pinella Dragani. Devono venire ancora anche loro. Robertino sempre impicciato. E lui era Tom Cruise. Ed è Tom Cruise da sempre. Insomma, in questo film ho detto una delle battute più belle della storia del cinema, secondo me. Puoi tenere pure la cuffia in tutte e due le orecchie. Fastidio. Come un doppiaggio la tieni? Una? Sì, perché non amo. Non ami siccome la io usavo cantare una volta. No, ti preoccupare, quello ne parliamo. Ecco, cioè abbiamo un blocco dedicato. Cioè, questo è un vizio di allora che bisogna tenere un orecchio scoperto. Certo, sennò esatto. Non ti senti. A me lo dici che io ho fatto del canto la mia vita. Io, adesso, tu lo sai. Adesso vai a Sanremo, no? No, è Sanremo che viene da me. È Sanremo che viene mi dice proprio lui, mi appare in sogno e dice, falla finita. Smettila. Va bene, falla finita. Per cui Gianni, qual è la battuta più bella? È quando film? Lui arriva ubriaco e si entra e dice ciao a tutte le ragazze riunite. Poi fa un lunghissimo monologo in cui Roberto è stato bravissimo. E quando finisce di parlare lei lo guarda e gli dice mi avevi già conquistato al ciao. Che bello. Bellissimo. Mi avevi già conquistato al ciao, va scritta. Però falla come, dobbiamo fare anche le segreterie telefoniche perché molte volte i nostri radioascoltatori dicono ah, c'è quell'attore, ok fagli dire sta battuta sì. Che io lo tengo come suoneria. Ma pensa allora facciamola sta suoneria, che bello. Mi avevi già conquistato al ciao. È bellissimo. Convinto. Mi avevi già convinto. È vero, ciao. Convinto. Bravissimo. È vero. Meguni che corre. Hai capito. È scritta? Sì, c'è scritto. Hai capito, ragazzi. Sì, perché lui è anche autore, giustamente. A real fan. Mi avevi già convinto al ciao. Mi avevi già convinto al ciao. Vai, facciamola. Sono pronta. Vai. Mettiamo anche un po' di musica? Vai, mettiamo un po' di musica. Aspetta. Senti, io ti amo, va bene? Voglio dirti che voglio vivere con te tutta la vita. Io voglio conquistarti, voglio dei figli, voglio vivere con te. Insomma, te l'ho detto, ecco. Non è stato difficile. Mi avevi già convinto al ciao. Guarda questa che mi manda ancora questi messaggi. Ho litigato con l'aspirapolvere e si rifiuta di funzionare. Che ho detto prima che la battuta. Lei che parla la sua lingua può farlo ragionare, grazie. Ah, eviti le declinazioni, non sai il latino. E io non ho mai detto di sapere. Come? Non ho mai detto di sapere il latino. Non ho Vabbè. Capito nulla. No, non ce l'ho neanche io. No, perché una persona ha detto userò l'aspirapolvere per pulire la domenica. Visto che lei parla per radio avete la stessa voce. Io l'aspirapolvere wow. Yeah, vabbè, ma non è un problema. Hai fatto un provino per doppiare l'aspirapolvere. Sono numero uno. Giorgia, tu sei cantante sì. Pure attrice sì. E sei, sì. No, hai fatto anche 100 vetrine, è vero, per un periodo sì. Nel 2008. Eh sì. chi facevi? La ricca Ludovica. Capitani d'Aragona. Scusate. Sì, è poco. Ludovica Capitani d'Aragona, che aveva un fidanzato molto più giovane di lei, Luca Capuano. Ciao Luca. Sì, aveva un fidanzato giovanissimo. Beh, vabbè, ma tu puoi permettere. Infatti mi tradiva con Serena Iancity, ma mi sembra il minimo, diciamo. No, io quelle storie qui, io mi sono perso già. Tu però hai doppiato anche Beautiful, ok? Eh sì. Però facevi due ruoli a Beautiful. No, ho fatto sempre solo Katie Logan. Sempre lei? Sì, sempre. Attenzione, che qui mi dice di no Mauro Megoni, che già Mauro, non c'avevi niente da fare oggi tu. Lui non può non avere niente da fare perché Mauro, deve lavorare. Due parti faceva, sei scritto? Sì. Dai, non ma non si devono svelare queste cose. Insomma, se tu mi dici non sei neanche. Sì, forse sì, forse sì. Perché poi a un certo punto Katie è sparita. Guarda. E allora, siccome mi vogliono molto bene, mi hanno rimesso dentro la serie. So. Beautiful è l'unica serie che stanno. Sì. Vale la legge tutti. C'ha l'età mia più o meno. Tutti con uno e tutti con tutti. E tutti con tutti, sì, sì. Perché insomma, sì, io l'abbiamo persa di vista con la prima ditta quando l'abbiamo presa in giro, giocata, eccetera. Dopo ci siamo persi. Sì, sì, sì. È un po' la nonna del Grande Fratello, ecco un po', no, diciamo. Non so più veramente chi è morto realmente, chi è morto nella serie, chi se n'è andato, chi hanno cacciato poi via. Poi compaiono, muoiono, ma poi tornano i fantasmi, cinque i fratelli gemelli. Ciufoli che faccia torna e faccia torna a Sorrento. Era torna, torna a Sorrento. Clark lo faceva con un paio di scarpe. No, era veramente... Sì, no, ma poi ce l'hanno proibito perché non si poteva vedere un paio di Clark in televisione, perché era pubblicità. Come sto facendo io in questo momento, vabbè, ma una marca consolidata. No, dai, vabbè. Sì, ormai fare non hanno bisogno di noi, diciamo, no, ecco. No, come certe bevande si dice ormai di default, tutto quanto non succede niente. Dove ti trovi più a tuo agio? Nel canto, nel doppiaggio, nel cinema? Nella regia. No, vabbè. Sì. Sì, sì, mi piace tantissimo, che mi inquieta un po' Mauro con questo. Sì, perché c'ha questa invenzione perché, di diretta Facebook. Capito? Questi... Che poi uno dice, ma chi guardo, Pino o no, Mauro? Guarda me, guardo perché, io. Esatto, allora, così ciao. Capisci che tutto, allora mi metto così. È tutto meglio dopo. No, no, la regia è che per regia intendo anche la direzione del doppiaggio, per esempio. Certo. No? Cioè, mi piace moltissimo fare l'attrice, mi diverto moltissimo. Anzi, mi piacerebbe ricominciare a farla perché è un po' che non la faccio. Però mi rendo conto che la regia mi piace di più. Cioè amo talmente tanto gli attori che più ce ne sono meglio è. Cioè la visione d'insieme da fuori è meglio, capito? Ah, non... È meglio. Ah, no, capito. Poi li amo anche. Un'orgia di attori, non no, un'orgia vabbè, di recitazione. Posso venire? Mauro, ti prego, non intervenire nella radio. Tu sei web, questa è radio. Allora, va bene, il primo momento insieme a Giorgia è andato, ce ne abbiamo tanti e ci abbiamo anche tante cose da ascoltare, per cui io ho paura. No, sono bellissime tutte. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy in diretta sempre, sono le 15:32 primi e 37:38 secondi in questo momento, al mio fianco la bravissima attrice, cantante e doppiatrice Giorgia Lepore. Nel frattempo sono entrati due giovani ragazzi, noi mettiamo e postiamo sempre su Facebook la possibilità, diamo la possibilità a qualcuno di venire qui e cimentarsi un po' con questo mestiere, con la voce e tentare, possono essere dei dilettanti oppure dei semiprofessionisti o dei professionisti magari non conosciuti, che non vuol dire niente, un professionista è sempre un grande professionista. Ma a me intriga tantissimo la carriera di cantante di Giorgia Lepore, perché sì, ecco, ha cominciato prestissimo con il doppiaggio, però le cose che ti raccontano in quell'inizio sono musicali soprattutto e hanno venduto veramente l'ira di Dio. Sei un po' l'antagonista di Cristina D'Avena. Sì, eh? Sì. E allora, cretina D'Avena io. Io credo. Senti un po'. Americana, bandierine, noi qui. Squadra nazionale, i colori del cuore. Mimi, c'è Mimi. Arci super grande, il campionato mondiale. Voglio una canzone da cantare e gridare a Mimi. Tu, anni erano, Mimì? Lasciala di sottofondo, Valerio, non deve specchiarsi. Non lo so, forse... Come forse? Ero già... 13, 14... 14, 15 avanti, non Cristo? So. Avanti Cristo, avanti Cristo, dai, io ero già grande lì. Non lo so, non lo so. Questa è stata la prima che hai fatto? Ma no, perché in realtà io ho cominciato a cantare con il coro di Nora Orlandi, nostri figli, perché eravamo tutti figli di orchestrali, musicisti. È vero, papà era musicista. Bellissimo, un coro, ci siamo divertiti da morire, siamo andati a Sanremo. Io sono stata sul palco dell'Ariston con i ricchi e poveri. L'83 comunque, l'83 Mimì. Ah, non lo so, tu sei tu il mio biografo. No, è lui. C'è Valerio di là che è informatissimo. Era in 4v4 di Nora Orlandi, c'erano sempre. E quello era uno dei cori. Quelli erano gli adulti. Gli adulti. Noi eravamo i nostri. Abbiamo fatto tutto il primissimo disco di Renatone. Sgualdrina, abbiamo fatto tutti i cori di Sgualdrina. Beh, carino, dei bambini che fanno i cori di Sgualdrina. Lui era meraviglioso, io proprio lo amavo. E nonna Ada, che tu ricordi molto bene, che mi accompagnava a registrare, era pazza di lui perché è veramente una persona straordinaria. Ma è tuttora lui, una persona infatti. Straordinaria. Io ho la fortuna di conoscere Renato, gli ho chiesto anche se un giorno Renatone, voglio tornare quando c'è Renatone. Un in bocca al lupo almeno per radio, perché lui si muove, perché è sempre in tournée, sempre in giro. Però una telefonata di Renato, è stata la sua festa pochi giorni fa. Sì. Ma senza che diciamo l'età, non ha età Renato, no, come me, come te. Esatto, lui di più, è veramente un uomo senza età. E, però io non voglio finire con Mimì, io voglio sentire quella che poi è stata poi un grande successo anche, che è Conan. Trema Cristina D'Avena, trema. Da. E questo è l'intro nella vita, no? Ed è fantastico, prende l'intro di Conan, vai. C'era una volta una città in quell'isola laggiù. C'era una via che passava di là, proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Se qualcuno sorride a te, un domani ancora c'è. E vai, apri. Tutto deve ricominciare. Dai, Conan, mettici tanto amore, più che puoi. Beh, ma sono stati grandi successi, Giorgia. E sì, poi sì, veramente, sì, cioè, sì. Avere la fortuna di aver accompagnato le sigle dei cartoni sono quelle più amate. Sì, però la preistoria proprio. Ma capito, ma su quelle che restano poi nella storia. Sì, io ho ancora persone che mi scrivono su Facebook dicendomi: io sono cresciuto con te. Sì, gente ormai con la prostata, perché ci sono passati tanti anni. Infatti da quel io giorno. Rispondo anche io. E io sono cresciuto con le tue canzoni, anche io sono cresciuta con le tue canzoni. Però lasciano il segno. Poi io anche Cristina l'ho chiamata proprio poco tempo fa, l'avremo ospite, perché insomma fare con lei un bel percorso di queste sigle che fanno venire i brividi, perché comunque ci hanno accompagnato un po' a tutti, e dai, voi siete giovani, che? Eccola! Ma non ci credo! Sentiamoci i cori, aspettiamo! Sgualdrina, sarai la mia rovina, abituarmi a te questo proprio no. Arrivano dopo i cori, mi sa. Intanto andiamo avanti, come sentiamo. Beh, un altro coro bellissimo era con Sergio Endrigo, per fare un albero. Anche lì ci certo, cioè, ci siamo noi, certo. Coro dei nostri figli. Capirai, tuttora mio figlio mangia con la tartaruga di Lauci e ci vuole un albero di Sergio Endrigo. Esatto. Tutto torna. Tutto torna. Mi scappa la pipì, tutte quelle cose lì. Tutto torna, amore mio, tutto torna. Ci sono ancora i bambini? Ancora no, io non mi ricordo neanche dov'ero. Verso la fine, Valeria è stato già brava a trovarla. Vi dicevo, sotto ci sono già i cori qua. Ci sono qua. È bello tutti i bambini che cantano la Sgualdrina doveva toccare a me. Ci sono qui Gianni e Elisa. Sì. E sono due dei ragazzi che hanno risposto prontamente a questo appello fatto su Facebook. Veramente sono tanti quelli che rispondono. Sta la scelta a Mauro e Alessia di portare qui delle persone, così, un po' da tutta Italia. Gianni, da dove vieni? Io vengo da Martina Franca, in provincia di Taranto. Quanti anni hai? Io ho 24 anni. Dalla voce non sembra, vero? No. Mentre tu, Elisa? Io sono di Reggio Emilia, però abito a Pisa e ho 20 più 6 anni. 20 più 6 anni, io pure 12 più 50. Non è male. Come anch'io, sì. Esatto, farlo così. Tu cosa fai, Elisa? Allora, io sono aspirante adattatrice ai dialoghi. Oh, vedi, servirebbe il doppiaggio, no? Sì, se vi serve, io ci sono. Dall'inglese o dal francese? Dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo. Ullala, hai capito? A me servirebbe un adattatore quando parlo proprio. Personale. Sì. E tu invece a questo punto rispondi per le rime, inventa delle cose. Inventiamoci un po' di cose. No, sarei un aspirante doppiatore anch'io, però nel frattempo lavoro e quindi... Però i sogni sono altri, lo dicevo anche prima, quando ci siamo incontrati per la prima volta, sì. Va bene, senti, che cosa hai portato per vedere? Io ho portato il monologo di Shylock, quello di Al Pacino, doppiato poi da Giancarlo Giannini. Vabbè, che andava bene. Non sarò all'altezza, ovviamente. Vabbè, tu ti sei pure cimentato su una cosa. Beh, c'è Giorgia che può decidere come va, ma stai tranquilla, hai 24 anni. Hai 24 anni e non è certo un talent adesso che ti porti. Ah, sì, non senza dubbio. È un gioco bello per dare la possibilità a qualcuno di farsi ascoltare, perché no? Vai, proviamo. Ha disprezzato il mio popolo, ostacolato i miei affari, allontanato i miei amici e saziato i miei nemici. E per quale ragione? Perché sono ebreo. Non ha occhi un ebreo, non ha mani un ebreo, organi, consistenza, sensi, affetti, passioni. Non si nutre dello stesso cibo, non è ferito dalle stesse armi, non soffre delle stesse malattie, non è curato con gli stessi rimedi, scaldato, agghiacciato dallo stesso inferno e dalla stessa estate di un cristiano. E se ci pungete, non versiamo sangue. Se ci fate il solletico, non ridiamo. Se ci avvelenate, non moriamo. E se ci fate un torto, non ci vendichiamo. Se siamo a voi uguali in tutto il resto, perché non assomigliarvi anche in questo? Se un ebreo fa un torto ad un cristiano, a cosa si riduce la sua carità? Alla vendetta. Bene, dai Gianni, dai, ci sta, no? Devi asciugare bella un voce. Po' bella voce, devi grazie. Muoverla un po' di più, i finali ovviamente diversificarli un po' di più, ma insomma sei giovane. C'è sei... tempo. Sì, spero. Sì. Vabbè, si può lavorare su uno come te, no? Vero, sì, Giorgio? Sì. Non è male. Sì, sì. Elisa. Beh, Shakespeare ai tempi del cellulare è fantastico. Esatto, sta leggendo sul cellulare il testo ormai fantastico. Si può scaricare. Elisa, invece sì. Tu fai, allora, fai anche la speaker. Faccio la speaker, saluto tutti i miei colleghi di Radio Eco, che è la radio dell'Università di Pisa, quindi una piccola realtà universitaria. Tutti piegati da una parte. Tutti piegati, sì, sì, anche ora io sono abbastanza... Proprio. Microfoni tutti così. Sì, sì. E io volevo leggere un pezzetto del monologo di Tim Roth in La leggenda del pianista sull'oceano. Anche tu ti cimenti su qualcosa. Il doppiato da Massimo Popolizio. 900 di Baricco. Di Baricco, sì. In tutta quella sterminata città c'era tutto tranne la fine. C'era tutto, ma non c'era una fine. Quello che non vidi è dove finiva tutto quello, la fine del mondo. Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro, tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace, in questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti, che non finiscono mai. E questa è la verità, che non finiscono mai. Eccolo là. Va bene. Dai, si può lavorare, nel senso... Sì, sono un po' emozionata. Ma dai, ma guarda, ma sì. Qui nessuno si erge a giudice di nessuno. L'hai fatto, l'hai detto. È andata. A loro, alle persone che ascoltano la sentenza. Siete giovani ed è giusto, sì. Poi non togliere entusiasmo a nessuno, mai. Mai, perché si può fare. Dipende dalla volontà, il sogno più lo rendi reale, più riesci a... Nessuno di noi può essere giudice di quello che state facendo. Sì, se dovessimo lavorare da soli in una sala, eccetera, allora ok, cominceremmo ad analizzare poi il testo, il modo di dirlo, le intenzioni giuste. Però va bene così. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Lepore, qual è stata la prima cosa che hai fatto? La prima in assoluto, tu invece, dove hai cominciato? Credo che fosse Cria Cuervos con la direzione di Carlo Baccarini. Stai controllando se no, è vero? No, no, sono i messaggi. Non lo lo so. Credo, sì, credo di sì. So, queste cose sono cose che lasciano l'insegno. Che gigione che sei. Cioè, poi c'è una, un messaggio lunghissimo, ma non è dedicato a noi. Credo che sia qualcuno che parli di altra trasmissione. Sono 20 righe, si parla di omosessualità. Sì, tutti i grandi sono di morti. Di là. Quindi gli sbagliato. Esseri umani sono l'Europa ed è marcia. Cioè, non siamo noi. No? Non so dove è collegata questa persona. Rimettete Conan. Sì, vi prego, alleggeriamo sto messaggio. Che non è roba per noi. Dicevi con Baccarini, grande sì, Carlo credo, Baccarini. Credo che fosse Crea Quervos. Sì. Crea Quervos. Sicuramente una delle prime cose che ho fatto e che mi ricordo è il campione di Zeffirelli. È vero, doppiavi il maschietto. Sì. Lui con Renato Izzo. Schroeder, come si chiamava? Ricky Schroeder, mi Ricky pare. Schroeder. E sì, che sì. Facevi Champ, non morire, Champ, ma i pianti. Il figlio di Zeffirelli è il film poi, Champ, con John Boyd. Sì. Esatto. Film Strappalacrime. Perché c'era il periodo che, in cui le femmine, le donnine doppiavano i bambini. Ma sì, ma c'è ancora in realtà, perché quelle che nel canto vengono chiamate le voci bianche, no? I maschietti tipo e le Gianni, femminucce. Insomma, esatto. I maschietti e le femminucce hanno più o meno la stessa voce fino agli 11-12 anni. Stessi di bici. E quelle sono le voci bianche. E anche nel doppiaggio. Io mi ricordo una serie che abbiamo doppiato io e mio fratello, che si chiamava bellissima, La famiglia Partridge, dove io doppiavo il maschietto e Davide, che è più piccolo di 3 anni di me, doppiava la femminuccia. Ma tuttora Davide doppia le femminucce, c'è 40 anni passati. Certo. Se mi sente. Ancora voce bianca lui. Assolutamente sì, no, è cambiato anche lui, ringraziando il cielo. Valerio, noi quando andiamo in pubblicità invece, adesso possiamo andare, ma rimanete con noi, ancora con Giorgia Lepore e magari altre entrate in diretta, cosa non prevista, ma per carità, bella così. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, 15:48 primi 30 secondi, Giorgia Lepore, la nostra bellissima e bravissima attrice, doppiatrice e cantante, che si mette in ascolto, si è messo solo adesso, si è perso la fantastica Mimi e Conan, cantate da una giovanissima Giorgia Lepore. Senti, so che c'è una telefonata in diretta, vero Valerio? Bene, noi ogni tanto li accettiamo ben volentieri. E allora, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, buonasera. Parlo con la voce più bella d'Italia? Sì, no, almeno la terza o la quarta voce più bella di Monteverde Vecchio sicuro. No, sono Pino, sì. Piacere, come ti chiami? David, da dove chiami David? Chiamo da Roma. Ah, perfetto, sei proprio qui. Come mai ci chiami? Ti chiamo perché intanto la vostra è un'eccezione e bellissima di radio, che a quelli come me, appassionati di voci, di cinema, di doppiaggio, insomma, non può fare che piacere. Io chiamo perché, tra le mie, diciamo, passioni, c'ho quella della lettura, e nei momenti, insomma, di solitudine, dove la lettura diventa, oltre che un piacere, anche una delle tante attività che bisogna fare in certi momenti, quindi mi ero inventato il sistema di dare ai personaggi che leggevo su un romanzo oppure su qualsiasi testa, insomma, una voce di un doppiatore, cioè una voce di un attore doppiato. Insomma, tu abbinavi a quello che leggevi ai fumetti, sì, la voce di un bravo doppiatore. No, però anche ai romanzi e ai libri, diciamo. A tutto, cioè tu abbinavi anche al libro, sei stato il primo a immaginare una cosa del genere, o no, l'unico, credo. E com'erano queste cose? Ci può fare qualche esempio, Davide? Sì, per me, io usavo molto spesso la voce che davano a Gary Cooper, a Jimmy Stewart, e poi Gualtiero De Angelis, Cigoli, Panicali, questi qua. Poi James Bond, Clint Eastwood, Pino Locchi, Michele Calamera. Michele Calamera, sì. E anche delle voci bellissime di donne, Betty Davis, e anche più recenti, insomma. Ma come ti risuonavano nella testa queste voci? Cioè, te le facevi, parlavi, la imitavi anche tu vocalmente, oppure le ascoltavi solo nella tua testa, te le mettevi? No, ce l'avevo in testa, no, con la voce che sciocchi, che poi io do piacco, insomma. Io posso, guarda, il massimo che posso doppiare è Braciola del Pigneto. Braciola del Pigneto, sì, la romanità posso. Che esce fuori. Però è bella questa cosa, ti ringrazio di averci raccontato questa particolarità, perché è la prima volta che sento una persona che legge un libro, un fumetto, ma lo caratterizza con delle voci che ha nella testa di grandi personaggi doppiatori del passato, straordinari, poi che sono per noi indimenticati. Faremo presto una puntata con queste grandi voci, con l'amico Gerardo Di Cola, che è veramente lo storico per eccellenza del doppiaggio italiano, e quando parlo di doppiaggio italiano parlo di doppiaggio mondiale. E allora, va bene, grazie Davide, vuoi dire qualcos'altro? Va bene così Davide, tu che lavoro fai Davide? Io faccio l'imprenditore, sono nel settore, diciamo, ristorazione. Se sentiva un po' da magari uno gli faceva mangiare. Va bene, va bene. Va bene Davide, grazie di questa tua chiamata, grazie davvero, un abbraccio. Grazie Davide, grazie. Ma è bello, questa, mi piacciono questi momenti. Cara Giorgia ha una voce particolarmente sensuale, con stima Mario da Rimini. La parola MILF non è brutta, vedi che è arrivato, ecco, perché fatto. Anzi ha ridato dignità a donne di non primissimo pelo. Vabbè. Un milione d'anni fa. Che cos'è? Un'altra lepore. Ryu, ragazzo delle caverne. Guarda come si diverte lì, guarda. Non so neanche più se c'è Ryu, sai. È alta, sì, eh. Era Ryu, ragazzo che beh, c'è video. Poi senti che meraviglia. Favolè. Dai, brividi, voi sanatomi. Ma sono belle, Giorgia, lo so che sì, ti raccontano, sì. Sarai ospite dappertutto. No. E te le racconto. No. Comics. Vado quest'anno per la prima volta a Lucca Comics. Vabbè, è giusto che tu ci vada. Insomma. Quest'anno per la prima volta. Io sono stato manco una volta, per cui. Perché? Non mi hanno mai chiamato a Lucca. Vai, vieni con me. E che io dice a mia moglie. Vabbè, ci parlo io, ci non ti preoccupare. Lei lo capirà. Va bene. Cioè, quando finisce questo blocco 56, però abbiamo un altro ospite qui, un altro. Come ti chiami intanto? Gigi, eccomi Gigi. Qua. Da dove vieni, Gigi? Sono di Modena. Sì. Bello, si mangia bene lì. Lì, a colpo sicuro, zio, cioè proprio le tournée in Emilia Romagna, senza dubbio. Ecco. E cosa fai? Fai anche tu lo speaker? Io faccio lo speaker, il conduttore e il giornalista, ho tante anime, esatto, ho tante anime che mi frullano in testa, però sono molto affascinato, lo rispetto perché bisogna studiare tanto, fare recitazione per il mondo del doppiaggio. Sì, per questo chi ama la voce è sicuramente il mondo migliore dove approdare, però sai perfettamente devi avere una preparazione di base importante. Certo. Cioè, la dizione, ragazzi, non la recitazione, prima la dizione è la cosa più fondamentale. E poi l'impostazione proprio della voce. E che ci leggi? Guarda, io avrei portato due pezzetti piccoli. Se sono piccoli, facciamo in tempo. Allora, uno è tratto dal libro. Una la Divina Commedia. Esatto. L'altro. 45 minuti e ho finito. Ok, no. Perfetto. Tratto dal libro Niccolò Leoni, Il generale bambino. Un bambino che adesso ci ascolta dalla sua, ed è il suo papà che scrive a lui. Prego. Musica. Come capo di Stato Maggiore, caro generale, in questi mesi ci siamo detti tante cose. Ci siamo insegnati reciprocamente tutto. In 5 mesi hai fatto talmente tanta confusione che sembra che tu abbia vissuto 3 vite. Hai stravolto tutti i sistemi, hai messo a durissima prova le tenute di tutti. Io stesso ho fatto una fatica abominevole per starti dietro, ma ti voglio ringraziare, Niccolò Leon, perché ci hai fatto battere il cuore talmente forte che non era possibile non ascoltarlo. Ci hai irretito con una tua magia, facendoci incollare a te, e mai nessuno di noi potrà dimenticare del generale bambino più amato e meno conosciuto. Caro Niccolò, il resto ce lo diremo guardando il cielo tutti i giorni. Tanto sei lì a fare di certo dell'altra confusione. Ti saluto, generale, con la nostra canzone, la tua Leonanna. Va bene, utilizzi il microfono in maniera molto ruffiana, mi vai sui fiati, non mi articoli troppo, mi soffi dentro. Ti piace il microfono, eh? Che queste cose che uno parla in questa maniera, ed è fantastico. Ecco, un po' come Regione Fiction adesso. Vabbè, no, però non era male. No, no, non era male, davvero, davvero. Grazie. So, ti vedevo che c'hai questo rapporto molto confidenziale col microfono. Mo' magno. Esatto. Posso quest'altro pezzettino? È proprio breve, c'ho 20 secondi. 4 righe. No, non possiamo? No, è tassativo. Ma dopo, c'è ancora tempo. Adesso c'è la lunga pausa? In questo momento c'è la lunga pausa perché c'è il GR. E allora niente, diamo la linea al GR. Fra 6, 7 minuti, 8 minuti torniamo in diretta con Giorgia Lepore, ancora con Gigi, magari gli altri che si cimenteranno in altri momenti. Anche Giorgia ci leggerà una bella cosa. A tra poco. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di Faccia a Faccia, le inchieste, Dentro la Notizia e Gialli della Storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Anatomy. E dopo questa lunga pausa torniamo in diretta a Voice Anatomy, Pino Insegno. Sono le 16:07 primi e 53 secondi, al mio fianco sempre la bellissima e bravissima Giorgia Lepore. Si alternano alla mia destra invece questi giovani che erano venuti per il fuori onda su Facebook, invece grazie anche alla gentilezza di Giorgia, disponibilità, grazie, possono cimentarsi in diretta, perché no? È facile dare la possibilità a chi già c'ha il nome in cartellone, no? Beh, sì. E invece bisogna darla a chi non ce l'ha, perché grazie, dopo uno potrà vantarsi e dire che Giuliano Crupi era stato ospite in momenti non sospetti di una trasmissione. Giuliano Crupi, tu sei un cantautore. Cantautore, sì, me la canto e me la suono. Vabbè, i cantautori hanno una grande tradizione, si è persa un po', ma sono grandi, insomma, l'Italia. Chi è il tuo punto di riferimento? Battisti. Ecco, che non è proprio un cantautore, perché l'autore era... Beh, sì, diciamo che scrivevano... Era un duo vincente, ecco. Quindi, erano due cantautori. Sì, sì, quindi Battisti sicuramente... E invece i De Gregori, i De André... De Gregori, sì, anche De Gregori molto. Insomma, ci sono canzoni di De Gregori, La Donna Cannone, Sempre e per Sempre, che sono capolavori, tanti, insomma. Ci vorrebbero sì, otto sì, blocchi sì, di questa trasmissione. Sì. E tu che cosa mi hai scritto? Io ho scritto, diciamo, un album che si chiama Possibilmente Guardo il Cielo. Prodotto da Maurizio Filardo con una produzione indipendente e contiene 10 brani. Si trova in web? Oppure? Si trova in digitale, quindi su tutti i store digitale, iTunes, Spotify, ci sono dei singoli su YouTube e ci sono anche delle chiavette USB a forma di disco che ho portato anche, quindi poi ve la lascerò come ricordo. E uno può registrarci sopra altre cose oppure tiene per forza il tuo brano? Poi è da 2 giga, quindi puoi lasciare e aggiungere altre cose. Beh, facci sentire un brano che ti rappresenta di più. Ok, dai. Allora vi faccio ascoltare Giorno dopo giorno, che avevo accennato prima in diretta, onda. E ora la facciamo ascoltare. Senza timore, poi mi vesto col tuo splendore, ti aspettavo da sempre, speravo da sempre, ho raggiunto a destinazione e mi nutro col tuo sapore, poi mi drogo con il tuo odore, sa di epoche antiche da noi mai vissute ma piene di vero amore, che scambiavo per sofferenza come fosse la sua presenza e poi arrivi tu. Giorno dopo giorno il mio pensiero per te che non va mai a dormire e di getto mi attraversa lento il modo in cui mi fai sentire con te. Non ho sarò felice. Studierò le tue mosse per disimparare. Sarò come una fenice che risale da zone oscure, senza armi né armature, per volare anche se il suo corpo non c'è. Dare lacrime alle ferite, e lo sai, ne sarò capace, perché tu mi farai migliore ed io ti proteggerò. Ti proteggerò giorno dopo giorno. È il mio pensiero per te che non va mai a dormire. E di getto mi attraversa lento il modo in cui mi fai sentire con te. Giorno dopo giorno. Grazie. Beh, non è. Beh, no? Grazie. Quanti anni hai? 30. 30, sei più giovane. Grazie. Grazie, sempre grazie. Sembro più giovane perché mi sono ultimamente un po' sbarbato. Ce l'avevo leggermente più lunga. Sì, adesso va molto questa barbona. No, no, no, io non la porto. La porto leggermente più lunga di questa. Senza barba dimostro. Tu hai studiato un po' di canto. Io ho studiato vocale, canto, chitarra. E poi, però diciamo che scrivo. Non ho mai seguito corsi di composizione. Ho sempre avuto l'esigenza di scrivere, quindi. Però lo studio dell'apparato vocale, insomma. Sì, assolutamente sì. Ho studiato chitarra con Alex Massari e canto con Gabriella Scalise. Tu stai dicendo i nomi perché speri che non ti fanno pagare le ultime lezioni, non ho capito. No, no, no, ho studiato quando avevo 16 anni e poi ho cominciato a scrivere le mie canzoni proprio a quell'età. Bene, io non voglio fare commenti su tutto questo, perché i commenti li stanno anche lasciando i nostri radioascoltatori. Bene, spero siano positivi. Essere giudici non è male. Caspita, questo promette bene. Grazie. Va bene, dai, qualcosa. Grazie. Caspita. Caspita. Ma per me la gratitudine è importante, insomma, dai. Ma sì, bisogna ascoltare tutti e nessuno. Bisogna ascoltare la propria voce, dai. Quella è la cosa più importante, sì. Sei convinto di questo, tu vai, vai. Mi piace, dritto. Mi piace, quello è l'importante. Ma scherzi. Cara Giorgia, tu sei la protagonista poi di questo momento. C'è una cosa molto particolare, molto divertente, cioè, tu hai doppiato due film con due protagonisti, ma lo stesso, due protagoniste, ma lo stesso film. Ah, una sì. Era Apri gli occhi. Abre los ojos. Los ojos, era un film spagnolo o messicano, era spagnolo? Era... Non mi ricordo se era sudamericano. Comunque, era... Era spagnolo, era spagnolo. La protagonista era Penelope Cruz. E poi hanno fatto il remake americano che era Vanilla Sky, esatto, con Tom Cruise sempre, ma e Cameron Diaz. E Cameron Diaz, che e lì ho doppiato Cameron Diaz. Noi abbiamo. Quindi ho doppiato le due protagoniste femminili della stessa storia, ma in due film diversi. In due momenti sì, separati, anche anni diversi poi. Beh, sì, sì, qualche anno. Qualche sì, anno di differenza. Noi abbiamo un contributo, Cameron Diaz in Vanilla Sky. Faresti un servizio su di me se incidessi un CD? Certo. Ti piace la mia musica? È vivace. Se io non fossi uno, comprerei un CD fatto da me. Beh, se riesci a fare colpo anche su una sola persona. Wow. Cos'è la felicità per te, David? Cos'è la felicità per me? La felicità per me. Perché la felicità... Per me è questa. Stare insieme a te. C'è una cosa che mi dà fastidio. Perché sei andato a dire a Brian che sono la tua compagna di scopate? Non l'ho detto, ti sveglio. Non l'ho detta questa cosa. Da quando è che non ti importa più, David? Non mi importa più cosa? Di tutte le conseguenze delle promesse che fai alle persone. Le promesse? Sì, le promesse. Pensavo... Giulia, ma che cazzo? Ma di che stai parlando? Ma tu lo capisci quanto è difficile far finta di essere tua amica? David, io sono innamorata di te. Io ti amo, cazzo. Io ti amo, cazzo! Niente, vabbè, si è capito, eh? Va bene, tra pochissimo, poi sanatomi, torniamo in un battibaleno. JP Morgan Asset Management vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci di ritorno a Voice Anatomy. Ho chiesto a Giorgia di rimanere un altro blocco insieme a noi fino ai 28, dai, 28. Ancora 11 minuti insieme prima di salutarti. Beh, hanno letto tutti, hanno recitato, hanno cantato, come il nostro amico al quale facciamo veramente un grosso bocca al lupo. E soprattutto devi leggere tu adesso, come fanno tutti i nostri colleghi. Vuoi accompagnare Giorgia con un arpeggio di come chitarra? No. Questo è un monologo tratto, è maschile, perché ecco. The Itch era Will Smith. Occhiali perché ho 25 più 26. Era Will Smith, Sandra Cerbo ovviamente, parla delle donne, per cui una donna che parla tramite un uomo di tutti i limiti delle donne, era molto okay, divertente. Quindi una cosa molto... dolce, ecco. Sì, va bene, come senti, vedi, okay. Cammina gli affianchi. Okay. Io comincio, vedi cosa ti ispiro. Vai. Boom, abbiamo una schitarrata in testa. Esatto. Vai. Parti. Vai. Regole fondamentali. Nessuna donna si sveglia al mattino dicendo «Dio, spero tanto di non essere rapita dal principe azzurro oggi». Ecco, potrebbe dire «Ma è un gran brutto momento per me». Oppure qualcosa come «Ho solo bisogno di spazio». O la battuta che preferisco «Sono tutta presa dalla mia carriera per ora». Voi ci credete? E neanche lei? E sapete perché? Perché vi sta dicendo una bugia. Ecco perché, ci siamo capiti? Sta mentendo. Non è un brutto momento per lei e non le serve nessuno spazio. Sarà anche tutta presa dalla sua carriera, ma quello che in realtà dice è «Levati dai piedi adesso!» Oppure forse «Datti una mossa, stupido!» Ma quale sarà? Il 60% di tutte le comunicazioni umane è non verbale. Linguaggio del corpo, il 30% è nel tono. Vale a dire che il 90% di quello che si comunica non esce dalla nostra bocca. Che lei vi mentirà è certo. È una cara persona, non vuole ferire i vostri sentimenti. Che altro volete che dica se nemmeno vi conosce? Ancora. Fortunatamente si dà il caso che, come tutti quanti noi, anche una bella donna non sa che cosa vuole finché non la vede. Ed è qui che entro in scena io. Il mio mestiere è aprirle gli occhi. Regole fondamentali. Non importa cosa, non importa quando, non importa chi. Ogni uomo ha l'occasione di fare il principe azzurro e rapire una donna. Gli serve solo il cavallo giusto. Bello. Voi sapete, anche se non sapete, è tutto all'impronta ovviamente, come succede al doppiaggio la mattina, ti racconto un minimo la storia, ma che un minimo storia dovrei affrontare e poi si affronta neanche in ordine cronologico. Esatto, cui... no, ma anche nella stessa giornata, no? Sei la mattina, sei una suora del prima Minnesota. Guerra mondiale, all'una e mezza sei una sì. soldatessa, così. No, è veramente così. Grazie del tuo accompagnamento. Grazie. È stato un piacere. Veramente. Puoi far entrare, ho visto che là c'è la nostra non vocologa. Locopedista. Vocologa. No, perché abituato ad avere i vocologi, etnomusicologi, ipnotisti, eccetera. Grazie, in bocca al lupo, G, veramente di cuore. Che stai facendo adesso, Giorginia? Nulla. No, come nulla? No, è vero. Nulla. Sono appena tornata dalla Scozia ad Edimburgo, dove ho portato al Fringe Festival un mio spettacolo. Beh, con la mia regia. Ma non è nulla questo. Eh beh, no, però è finito. Cioè, no, capito, ma insomma sei tornata da un festival sì. importante. Sì, è stato molto bello, devo dire. Come hai partecipato? Come si fa per partecipare a una cosa del genere? Infatti, quante puntate avete? Sì, e poi quanto si guadagna? Nulla. Nulla, anzi, però, ci si perde però un po'. È bellissimo, è che divertentissimo. Non uno so spettacolo niente. Che si chiama Romeo e Giulietta Post Scriptum, di una giovane autrice svedese, Annika Niemann. Sono andata con Giulietta Sara Lazzaro e Romeo Francesco Petruzzelli, che sono due attori italiani bravissimi che recitano in inglese perfettamente, madrelingua. E lui no, in realtà lui è un miracolo della volontà. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Sono stata a gennaio, febbraio e marzo scorso a Londra a fare un corso bellissimo alla Central School of Speech and Drama, un corso di regia. Sì, no, sto facendo dei segni, perdonami. Cose strane. No, lei mentre sta parlando, perché c'è un caro amico regista importantissimo al telefono, però vorrei parlarci con lui appena tu ci abbandoni. Ma io ho finito. Dopo... No, no, finisce il blocco a 28 e il blocco dopo vorrei. Io ho ancora un po' di tempo, quindi... Sì, sì, sei minuti stai con noi ancora. Tranquilli. E com'è andato? Bene? Bene, è andato molto bene, io sono molto contenta. Strano che non hai chiamato me per fare la parte in madrelingua, tu sai che io sì, parlo... Sì, infatti, non ci ho pensato. Non ci ho pensato, vero? C'ho un inglese fantastico. Perfetto. Ecco, appunto. Dai, Valerio, non è una radio di quartiere, per favore. Ci ha raggiunto la nostra logopedista, sì, che anche lei ascolta spessissimo Voice Anatomy, ed è giusto dare voce, e qui anche volto, alle persone che ci ascoltano. Grazie. Però pensavo che lei volesse fare un tentativo nel doppiaggio, nella recitazione, nel canto, invece mi dice sono un vocale. Sono una logopedista, sono quindi una tecnica del... del mestiere. Senti la voce del nord-est, comunque, quando una donna parla con grande sensualità involontaria, no? Quanti anni hai? Ne ho 33. Che prima ha detto ce ne ho molti, purtroppo. No, ho rischiato la morte, sì. Ho detto che sembro giovane perché spesso mi danno un'età minore rispetto a quella che ho. E quindi, sì. Di che ti occupi esattamente? Vengono con dei difetti ovviamente di pronuncia, di impostazione, vengono, strutturale. Sì, vengono dei bambini o adulti o giovani così, con sì, delle difficoltà a livello del linguaggio, a livello proprio morfologico, strutturale, quindi che può riguardare l'apparato stomatognatico, quindi dei denti. L'apparato? Stomatognatico. I denti praticamente, sì. Stomatognatico. Stomatognatico. Non l'ho mai sentito. È anche difficile da dire. Si pensa che è capitato per giorno. L'apparato stomatognatico. Detto bene? Sì, ha detto benissimo. No, non ci fa piacere imparare delle poi... cose. Parlando tante volte mi vado con questo linguaggio un po'. Devi, è il linguaggio tecnico, che merita. Ma è quello, devi raccontare quindi, queste cose. Oltre a questo aspetto così mi occupo anche di logopedia nell'aspetto con le persone che soffrono di patologie neurodegenerative, quindi di aspetti che riguardano la comunicazione, la deglutizione, la masticazione, ma con degli aspetti un po' più forti e patologici. Anche dopo di un'operazione importante magari? Non, io direttamente no, io mi occupo in quanto quando le persone hanno già una patologia, quale può essere la distrofia muscolare, la SLA, sclerosi multipla o così, e basta. Insomma. Riesci ad aiutarli, accompagnarli, a farli riuscire a comunicare con quello nel modo migliore? Certo, sì, riesco abbastanza ed è... Beh, bello. Sì, no, a me... Dove operi? Nel senso, non fisicamente. Lavoro in provincia di Verona, in provincia di Mantova. Dove? Avrà un nome questo paese? Lavoro a Casaleone, che è in provincia di... Sì, stanno muovendo i braccialetti, che sembra un tintinnio che accompagna. Lavoro a Casaleone, che è in provincia di Verona, e a Monzambano, che è in provincia di Mantova. Sono strutture private oppure sono strutture? Sono strutture private, sono sì, lavoro in libera professione, quindi sono strutture private. Invece per l'altro mio lavoro, lavoro a domicilio delle persone in provincia di Verona, proprio nella zona del veronese. Certo, se tu l'intorno, ovviamente. Poi sì, questi problemi possono essere legati anche a un problema psicologico, dell'infanzia, un trauma o sì, qualsiasi altra sono, cosa. Sì, per cui collabori anche con psicologi, sì, eccetera. Sì, l'anopsichiatra, lo psicologo, gli insegnanti, e, insomma un po' tutto il team che si occupano dei bambini o della persona stessa che si rivolge a me. Che percentuali di successi hai? Ma non ho avuto un modo di calcolare una percentuale di successi. Sono contenta solo perché la richiesta c'è, e quindi questo mi porta a pensare che il lavoro che si svolge è un buon lavoro. È importantissimo. Questo sì. Ritrovare un essere umano, un bambino che riesce poi a riparlare, sì, no, nel proprio, modo giusto. È una soddisfazione perché, ma non soddisfazione per me, ma una soddisfazione in generale perché si riesce ad aiutare chi ha bisogno, chi ha delle difficoltà in questo campo. Così. E anche questo è voi sanato. Ti sei alternata sì, qui, sai, sì. Professori di grande importanza come sento. Fussi, Cossu, eccetera, sì. Per cui ci fa piacere dare voce anche grazie a te. Grazie a voi, siete state fantastiche. Vabbè, sei venuta da laggiù, sei fatta da lassù una passeggiata, mi sembrava sì, anche giusto gratificarti nel modo giusto. E grazie di questa tua nuova parola che ci ha insegnato, che è? Stomatognatico. L'apparato io già me l'ero dimenticato. Bisognerebbe imparare una parola nuova al giorno. Bene. No, ma lo userò quando in direzione. Ma per favore, puoi usare meglio l'apparato stomatognatico? Poi è vero, ci sta, certo, sì. Invece di dire articola bene, usa bene l'apparato stomatognatico. E lì su. Per te le direzioni finiranno. Invece, prima di andare in pubblicità, voglio ricordare che domenica prossima sarà ospite Luca Ward, la voce delle voci, visto finalmente sta tornando segnale. A scatenare l'inverno, visto che ci siamo. Esatto. E ha finito di girare Le tre rose per Eva, eccetera, eccetera, finalmente, perché poi faremo insieme con Luca Le tre rose di Eva. Di Eva, no, per Eva. Vabbè, non l'ho visto, non glielo di mai a Luca, che non lo vedo. Dal 24 al 28 ottobre io e Luca terremo per la prima volta insieme un masterclass molto bello di doppiaggio. Tu e Luca. Io e Luca. Ci sarà da divertirsi. Ma dai! Per informazioni, ce l'abbiamo sul sito anche, c'è un telefono che perché sono finiti i posti praticamente. Sono praticamente esauriti senza dirlo, però qualcosa c'è ancora perché allunghiamo. Il numero è 344-260-4174. Vabbè, ho usato la radio in forma. E il su 74. 74. Mi è calata la voce. Ma guarda, smette. È lei che mi ha fatto cominciare a fare questo mestiere, sapete? Ecco, così è adesso lei. Lo sanno tutti. È lei. Lei mi ha portato. Io facevo l'attore, è venuta a teatro a vedermi più di 30 anni fa. E sì, l'Allegra Brigata. Eh sì, ma dove stanno i numeri 30 anni fa? E siamo andati. E lei mi ha portato al doppiaggio la prima volta e da lì è cominciato il mio percorso. Perché insomma non era facile. Qualcuno mi ha anche detto tu non lo farai mai, ma insomma qualcuno ci ha creduto. Grazie Giorgio. Qualcuno Allegra. Ha sbagliato a dire tu non lo farai mai. Ma t'ho trattato bene fino a... Ah, ecco. Qualcuno ha sbagliato a dire tu non lo farai mai. Ah, ecco, pensavo che qualcuno ha sbagliato a fatto lo fa. Vabbè. Giorgia, grazie tesoro, veramente già di cuore. Già me ne vado? Già, è stata un'ora, no, è bellissimo. Ma già vado via. Devi andare anche a teatro. Volevo corri. Dire una cosa, la dilla, posso dire? Dilla. Visto che qualcuno ha sbagliato il mio nome. Ah già, è vero. Mi chiamo Georgia con la E. Ecco. E adesso tutto ciò ha ancora più importanza perché dovete sapere che Giorgia Lepore con la I esiste. Ed è una mia cara amica, è diventata una mia cara amica ed è una scrittrice pazzesca. È uscito adesso il suo ultimo libro. Zittalo, non lo dici, sei dire? Dillo. Angelo, che sei il mio custode, è una scrittrice favolosa. C'è uno che e si chiama Puno Insagno, no, non te lo Pino giuro. Insagno. Pino, te lo insegno, giuro, continuano canta. A ma dire dai. A me, ma quando hai scritto un romanzo? Ma e a zitta. Lei, ma quando hai cantato le canzoni dei cartoni animati? Madonna, che spersonalizzazione. Giorgia con la I. Dovevamo finire in un'altra maniera, ma comunque. Ciao Lepore, grazie. Ciao a fra a poco tutti. Con voi sanato. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Voice Anatomy, sono le 16:34 primi e 4 secondi, siamo stati in compagnia con Giorgia Lepore. All'inizio della nostra trasmissione abbiamo conosciuto un binomio straordinario di attori, di due generazioni a confronto, Andrea Giordana e Giuseppe Zeno, che saranno al Teatro Il Vascello, e ci siamo divertiti anche con questi giovani. Promesse, speriamo, mantenute dello spettacolo, visto che ogni settimana diamo la possibilità a dei giovani di cimentarsi con un repertorio o con qualcosa che possa metterli in evidenza o che possa dargli la speranza e la voglia di fare qualcosa in più. Non è un talent, non si promette niente a nessuno, si dà soltanto voce, visto che si chiama Voice Anatomy, è giusto dare voce a dei grandissimi professionisti, a dei grandi protagonisti dello spettacolo, della canzone, eccetera, ma bisogna dare anche spazio alle persone che sognano di poter fare questo mestiere, perché no, poi vantarsi un giorno che ce l'hai avuto i momenti non sospetti, insomma, dopo è facile chiamare una persona che è già famosa a renderla partecipe di qualcosa, ma non è facile invece mettere un nome in cartellone di una persona che è sconosciuta. Allora, vi siete tutti cimentati, anche la nostra vocologa, che non è vocologa. Tutti. Sei logopedista e L'apparato stomatognatico che ci ha insegnato questa parola. Sì, stasera dovremo andare a casa e ripeterlo 10 volte a testa, così. Avete voglia di cimentarvi ancora con l'apparato stomatognatico in qualcosa? Voi cantate, anche qualcuno di voi canta? No, è meglio, Meglio di no. Però parlare. Parlare sicuramente sì. Vuoi farci ascoltare un altro pezzetto tuo, volentieri, caro cantautore? Volentieri. Dai. Uno un po' più roccheggiante facciamo. Vabbè, con una chitarra classica. Vabbè, sta di là, lo faccio senza plettro. Ce l'hai gli altri là dentro. Ce l'hai, sei pieno di plettri. Bravo. Vado, questa si chiama Merito più di te. Ma perché? Ma perché le mi hai detto con un senso di sfida? Non me lo merito. Ti sto dando possibilità di una radio importante, di un microfono importante, tu mi indichi e dici merito più di te. Proprio con l'intenzione. Hai capito? C'è la cattiva di amore. Vabbè. Ora devo orientare a sé. Sì, sì. Merito più di te. Va bene. Se. Grazie, è stata una bellissima canzone, l'abbiamo goduto a pieno. Già la mia versione di te, che usi tutti come carta nei cessi. La tua facciata splende come un hotel 5 stelle, ma che poi cade a pezzi. Esci e lasci a casa le tristezze che hai, e non ti fidi neanche dei tuoi. E la tua luce immensa attira la preda, che divorerà in fretta e furia. E stai da solo in un privé, fuggi come un coniglio da chi ti vuole come me, fuori dal nascondiglio. Occhi di ghiaccio, pelle di serpente, no, non sai dare più di quello che si vede. Faccia di bronzo, cuore senza spazio, merito più di te, io merito più di te. Così mi finisci il levare, pezzo, inaspettato, no? Inaspettato. C'è una giuria, levare. Che ne pensi, Lisa? Bravo. No, seriamente. No, è stato bravo. Grazie. Ha una linea melodica interessante, poi lui è molto credibile nell'interpretare, si vede che... Quanto sei impostato. No, fantastico, quanto grazie. Quanto sei radiofonico del nord. Grazie mille. È un radiofonico del nord. Fantastico quello che hai fatto, davvero, è un pezzo veramente straordinario. La voce è importante, le intenzioni sono fondamentali, il colore, bisogna rendere sempre tutto naturale, cioè il doppiaggio, perché è bello, perché è una recitazione cinematografica e naturale, sì, che rende credibile quello che uno sta facendo. Quando anche si presenta a quella scuola di pensiero che è molto magari nord sulle pubblicità, quello un profumo straordinario, è bellissimo stare insieme stasera, capito, queste cose nel cercare quella voce gutturale di gola eccetera, invece la naturalezza nella voce non serve, la bella voce serve una buona intenzione, poi se una bella voce lo accompagna è più piacevole sicuramente, però tutto, ridì le stesse cose con grande verità. Non cercare quell'impostazione che gli hai dato. Bravo, bravo. Cioè, bella linea melodica. Oh, attento su melodica. Melodica. Eccola. Ecco. Perché una bella linea melodica. Allora, sembra che è ricercato, sembra finto, no? Ok. No, suona falso. Lo so che tu eri sincero, però l'hai reso radiofonico. Ok. Rendendolo radiofonico hai bleffato un'emozione. Ho capito. E che arriva, la gente se ne accorge. Posso farti una domanda? Certo. Ecco, no. Le finali, sì, che delle volte vanno, come dire, respirate, sospirate, altre volte... Vanno sempre timbrate. Sempre timbrate, cioè secche. Ma non secche, le finali sono quelle che danno l'intenzione totale di una frase. Se tu dici una frase e ti perdi le finali è perché non sai sostenere l'intenzione vera di quello che stai dicendo. Perché com'è nelle fiction di adesso... tanti attori, tanti bravissimi, ma alcuni navigano in questa incertezza, per cui morbidiscono, chiudono le finali molto prima. Dobbiamo andare, ti ho detto mille volte che così non, capito? Oppure parlano in questa maniera, ma perché mi devo dire questo? E per quello mi dici cazzo, ma sei rotta la radio un'altra volta, o la televisione. Invece sostenerla fino alla fine è fondamentale. Abbiamo al telefono invece un grandissimo regista, un grandissimo amico, che proprio al volo è Ivano De Matteo, che è uscito il suo ultimo film da pochissimo, che è L'amore possibile, un film bellissimo. Non voglio raccontare la trama, ma voglio la vita, scusate, sto andando di corsa, il titolo della canzone La vita possibile, è caduta la linea, infatti, vedete, per andare di corsa ho detto un altro titolo, perché è in treno Ivano. Va bene, stiamo tentando di avere Ivano, che sta lanciando questo film bellissimo. Per cui dicevo, l'intenzione finale è importante, sta tutto lì, ti giochi tutto lì, tutto sulle due ultime lettere della parola, e devi mantenere l'intenzione fino alla fine, come era una volta. E invece chi non ci riesce o grida troppo o sospira o finisce col fiato, e allora non va bene, non va bene, perché vuol dire che non sai dare quell'emozione fino alla fine di una frase, non lo so, una battuta qualsiasi. Di là, se ti viene in mente. Ho un piccolo testo, se posso. Ah no, c'è la telefonata, l'abbiamo recuperato. E allora ecco Ivano, la vita è possibile, ma con te è impossibile riuscire a parlare, immagino. No, non si sente. Va bene, ci abbiamo provato. Dai, il treno è anche questo. È vero che si arriva a pochissimo tempo dappertutto, ma è vero che non si può più parlare per telefono. Che cosa vuoi leggere? Vai. Beh, quattro righe. Posso? Vai, vediamo com'è. Non fate mai questo, che dà una schicchera sulle corde vocali. E non va bene. No, bisogna casomai respirare, aprire, sbadigliare, deglutire. Ma non fare questa cosa, è come se tu dessi una botta sui muscoli, un cazzottone sui muscoli prima di correre, non va bene. Uno schiaffetto per svegliarli, sì. Vai. Dare è la più alta espressione di potenza. Vedi, dare è la più grande espressione di potenza. Sono 12 intenzioni. Dare è la più alta espressione di potenza. Nello stesso atto di dare io provo la mia forza, la mia ricchezza, il mio potere. Non lo so, cambiando i ritmi, okay, senza appoggiarti su troppe, sennò la frase perde significato. La lancio fluida. Sì, dai all'ultimo proprio il significato di quella frase, se non sai ancora come interpretarlo. Vai. Dare è la più alta espressione di potenza. Senti quante sinusoide. Dare è la più alta grande sfalta di potenza. Dare la più alta espressione di potenza. Dare la più alta espressione di potenza. Però così, con l'intenzione, cioè con quello che vuoi dire. Ok. Dare è la più alta espressione di potenza. Nello stesso atto di dare io provo nello stesso atto di dare. No, senti, troppo. Nello stesso atto di dare. Cioè, nello stesso atto di dare sono troppe puntature, troppo impuntata. Quindi devo passarlo. Capito? È una linearità in quella battuta. Nello stesso atto di dare, che c'è? Che succede? E che succede? Io provo la mia forza, la mia ricchezza, il mio potere. Però è uguale, forza, ricchezza e potere? No. Se tu vai veloce a bimba, io provo la mia forza. No, li ho messi uguali apposta. No, quali devo cambiare? Beh, certo, perché la gente non sente la differenza. Io provo la mia forza, la mia ricchezza, il mio potere. La mia ricchezza, il mio potere. Ok, devo chiudere. Bene, adesso c'è l'intervento però, con il grande Frank Merenda, tra pochissimo, l'ultimo blocco insieme, poi la parola ovviamente a tutti i convocati. Va bene, ciao, a fra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, e ancora una volta al terzo appuntamento, il terzo tutorial, che poi è una chiacchierata piacevole con Frank Merenda sul venditore vincente in tutte le sue declinazioni, come Voice Anatomy tratta la voce in tutte le sue declinazioni. Mi sembrava proprio il posto giusto, la persona giusta e anche il momento giusto per raccontarci qualcosa, a parte i nostri attori, doppiatori, cantanti, vocologi e quant'altro. Frank si fonde benissimo con questa idea. E allora abbiamo parlato nelle scorse due settimane dell'approccio del venditore, ma anche dell'approccio che dovrebbe avere quello che acquisisce. Sì. Quello che sta attento al venditore, tante volte diventano sordociechi e non ascoltano magari un venditore che ha qualcosa di importante che potrebbe cambiare anche il destino di questa azienda. Ma abbiamo come nostro core business, come si dice in comunicazione, è il venditore. Yes. Dove andiamo, Frankie? Dove mi porti per mano? Allora, io approfondirei questa tematica che avevamo sollevato alla fine della settimana scorsa e poi ovviamente non abbiamo avuto modo di approfondire per creare questa nuova pillola, nel senso che è molto importante che i venditori capiscano che l'uso della voce, l'uso del portato per mantenere incollato il cliente durante la trattativa e quindi guidarlo poi a ottenere un obiettivo che sia nel suo miglior interesse è qualcosa di fondamentale. Perché? Perché le persone, io vorrei parlare di questo in questa puntata, le persone non sanno decidere. Io per primo, nel senso... se noi sapessimo decidere è una competenza, bisognerebbe studiare la scuola, nessuno te la insegna. Se noi sapessimo decidere saremmo tutti super ricchi, con delle relazioni personali meravigliose, saremmo con la donna o l'uomo della nostra vita. Scelte perfette. Faremo le scelte perfette, ovviamente grazie al cielo non è così, nel senso che siamo umani, magari potremmo fare qualche cappella in meno, però diciamo... Però ci aiuta una credo, quello ti dice sempre, fai esperienza così, tanto continuerai a sbagliare sempre nelle stesse direzioni. Sì, quindi facciamo esperienza e quindi noi non sappiamo decidere. Allora questo può non avere delle grandi influenze nella nostra vita, cioè ci può portare dei semplici fastidi o delle cose o portarci a fare delle scelte sbagliate. I venditori in un ambito specifico hanno la responsabilità di correggere questo sistema decisionale difettato delle persone quando sanno in cuor loro che stanno vendendo, ne stanno proponendo qualcosa che è veramente fondamentale. E, per esempio, le persone non sanno decidere in base al prezzo, ipersemplificano, nel senso che molte volte è normale cercare di spendere meno, ma la maggior parte delle persone va a spendere meno comprando delle cose che però non si rende conto che sono meno qualitative, con materie prime di minore qualità, con minor garanzia, con una per cui spenderanno 2-3 volte e a quel punto hanno speso di più. Esattamente. Ok, quindi è importante scegliere bene in funzione del prezzo, ma la caratteristica del venditore deve essere quella di saper spiegare alla persona che il prezzo iniziale dell'acquisto non è il prezzo finale, che è quello che dicevi tu, cioè quante volte poi dovrò mettere mano a questa cosa, sostituirla, o semplicemente a comprare prodotti, magari dico per dire alimentari di bassa qualità, quanto ci rimetto poi in medicine fra qualche anno o in salute, in denunce, tutte queste cose. E quindi la capacità decisionale, poi le persone sono pigre, nel senso le persone tendono a procrastinare, tendono a rimandare, quindi se tu ti limiti a spiegare bene il prodotto non fai il loro bene. Ti faccio un esempio con dei dati statistici. Sì. Okay. Tu devi sapere, Pino, che e magari lo sai, lo ridico per i nostri ascoltatori. No, ma io magari non lo so neanch'io. Fai conto, allora, l'80% dei sistemi di allarme casalinghi vengono venduti dopo che ti sono entrati i ladri in casa. Ok. Il rimanente 20% vengono venduti dopo che sono entrati i ladri in casa del tuo vicino. La finestra di fianco. Questo non ci ho mai pensato, è vero. Assolutamente così. Sono arrivati. Vale anche per gli impianti antincendio, per esempio, all'interno delle abitazioni. E questo è molto grave perché tu devi pensare che magari il venditore è passato e ti ha detto: guardi, qua bisogna mettere l'impianto, costa così 2-3 mila euro. E tu hai detto: no, vabbè, mo famo, andiamo, pensiamo, vediamo, mo ce penso, andiamo in ferie. Allora, questa Roma, sempre a Roma. andiamo, facciamo, guardiamo, perché esatto, sono vabbè, ma per comodità utilizziamo il dialetto. Facciamo tutta cosa. Cioè, quindi a seconda di dove siamo diventa... Quindi, a parte le battute, però è un problema, nel senso che se sei tu di per te, sei fortunato, entrano in casa e non c'è nessuno, è un conto. Però tu, se fai una scelta sbagliata da questo punto di vista, in casa c'hai bimba piccola, c'hai tua mamma anziana, magari, certo, le persone, non sono tanti i beni materiali, ma no, quelli veri, queste persone rimane, cioè anche se nessuno, cioè questi entrano persone armate, malintenzionate, magari se sei fortunato non succede niente dal punto di vista fisico, però c'è un trauma enorme, sì, uno shock è molto forte. I venditori hanno il dovere morale quindi di imparare a gestire le trattative in maniera corretta e anche davanti ai dubbi del cliente, ovviamente, sovrascrivere, lavorare su questi dubbi per mettere in testa alle persone che una scelta corretta deve essere una scelta corretta. Cioè il ci penso laddove io non credo che la persona ci debba pensare mi mette come venditore nella responsabilità etica di spingere la trattativa, che non significa che sono il venditore di fumo o sono il venditore di olio di serpente. No, ma già il racconto che hai fatto tu, se già il venditore di allarmi riesce ad approcciare in questa maniera, in maniera non invasiva, perché secondo me anche la persona ti dice attento, perché l'80% delle persone lo compra dopo, quello dice è come se metti, insomma, le pubblicità anche sulle sigarette, quelle molto dure, o per strada, vedere il dolore, certe volte esorcizzi facendo proprio l'opposto, cioè scappi da tutto questo e continui a fare quello per cui ti dicono non lo fare. Per cui anche lì l'approccio deve essere intelligente. Però se alla fine di un discorso, ecco, anche a me mi ha fatto pensare, alla fine di un discorso morbido, l'approccio morbido, diciamo già nelle altre puntate, arriva poi, guardi, quando vedi che quello tentenna un po', dice: guardi, che le dico soltanto una cosa, che l'80% delle persone ci pensa dopo che è stato effettuato un furto nella propria casa, e il 20% dopo che hanno rubato a casa il vicino. Queste cose ti fa pensare, dici cavolo, molto. È come quello, non mi hanno mai rubato lo stereo, lo metto sotto, ma una volta succede e non racconti più. Dici, ho fatto sempre il bagno dopo mangiato, non mi è successo niente, è quella volta che poi non lo racconti più. Ma è molto importante, Pino, quello poi, che stai dicendo, nel senso, prendiamo l'esempio delle sigarette, no, che stai facendo. Perché noi siamo amici, mi hai presentato Alessandro Annese, okay, che si occupa proprio di questo. British American, allora, loro hanno questo problema, nel senso che più tu metti, per esempio, la pubblicità che dovrebbe spaventare sul pacchetto, più in realtà attiri i giovani a dimostrarsi coraggiosi fumando lo stesso. Sì, infatti secondo me certe cose hanno proprio l'opposto. È sbagliato, è proprio sbagliato. Cioè, se non può parlare, si può aprire veramente una tavola rotonda su questo, è sbagliato. Noi abbiamo fatto degli studi proprio con Orris, tu sai, il mio maestro di marketing. Orris, parlavamo proprio di questa cosa, nel senso che nel momento in cui tu stimoli una reazione contraria, cioè... se tu metti un divieto, le persone tendono a reagire in maniera opposta, proprio per dimostrare, nel caso delle sigarette, nel caso di fare le impennate sciocche col motorino, sono i riti di passaggio per farti vedere che io sono coraggioso. Quindi se tu dici che questa cosa provoca la morte, il ragazzino non vede l'ora di dimostrare davanti agli altri che lui si fuma la sigaretta. Anche per la strada, quando leggi il 25% degli incidenti sono i motociclisti, subito. Cioè, tu dici, ma perché? Ma che vuoi? Io sto già attento, non, oppure lo fai. È vero, si rifugia per far capire che esistono certe situazioni estreme, non far vedere un bambino ammalato per sensibilizzare in quella direzione. Facciamo vedere il bambino che si è salvato. Sì, assolutamente. Questo sarebbe estremamente importante. Mm. Sul discorso delle sigarette, per esempio, parlavamo con Al, lui aveva presentato una campagna negli Stati Uniti, l'avevano convocato quelli della Marlboro e quant'altro, e lui spiegava questa cosa, detto, non dovete fare vedere il pericolo, perché questo attira i ragazzini come gli orsi al miele. Okay? Quello che bisogna spiegare invece è che i perdenti fumano. Se tu cominci a spiegare che i perdenti fumano, sì, perché già prima nei film tu vedi Humphrey Bogart che fumava, Marlon Brando che fumava, vogliono che fumava, fumo pure io, il cowboy della Marlboro era un'immagine molto forte per far vedere che tu facevi parte, no, di quella, cioè... ecco, ma la canottiera su Marlon Brando è uguale. Ma la compro pure io a voi. Sapete che poi non te fa quel fisico. Invece tu devi cambiare completamente la percezione, no, cioè che chi fuma in realtà è un debole che si lascia andare, la sigaretta è più forte di te, quindi tu sei debole perché vince la pagliuzza di 5 centimetri. Questo vale in tutti i prodotti, insomma, sì, che tu vorresti sensibilizzare, al contrario, ovviamente. Ovviamente, questo è molto importante. Quindi io direi che questo è il messaggio che dobbiamo lanciare oggi, nel senso che il venditore ha un ruolo etico molto importante, laddove ovviamente l'azienda per la quale lavora sia un'azienda assolutamente etica, il suo scopo... Sì, sì, diamo per scontato che il prodotto è buono. Cioè, dando per scontato che il prodotto è buono, stiamo parlando di una bella persona che fa il mestiere del venditore, ci tiene veramente non ad appioppare roba a casaccio perché vuole mettere insieme il pranzo con la cena, ma sta facendo in realtà un lavoro importante. È fondamentale prendersi la responsabilità di portare i clienti a decidere per il meglio, perché se non li spendono con te quei soldi, quei 2-3 mila euro, la gente, ragazzi, che anche che è sempre senza soldi, non sto parlando di chi non ne ha, che ha delle situazioni particolari, ma certo, chi ne ha e si trova comunque sempre senza, se tu non gli aiuti a spendere quei 2-3 mila euro nel fare l'impianto, questo se li sputtana a fare delle sciocchezze, se li va a giocare alle macchinette, se li va a giocare al... oppure deve rifare casa, perché gli hanno scardinato la porta, hanno distrutto il garage e rubato la macchina dentro. Questo per quanto riguarda ovviamente la cosa dell'antifurto, ma ci sono tantissime cose, vanno approcciate a secondo del, ma abbiamo anche altre giornate insieme a te. Assolutamente sì. Non parliamo solamente di allarmi o di pubblicità progresso. No. Allora, Franchi, grazie come te, sempre, Pino, come ogni settimana, di raccontarci, fare questa piccola grande chiacchiera sui venditori vincenti. Alla prossima settimana, promesso? Alla prossima, ci sono, un salutone a tutti. Sì, perché insomma tu bisogna dire che stai fuori Italia, sì, tua base è fuori. Adesso sono sempre in giro, vengo avanti e indietro, Spagna, vengo dal Portogallo, quindi tutte le settimane ci perché ti stanno cercando? Mi stanno cercando. Hai venduto delle cose sbagliate. Sto scappando da tutte le parti. Frank Merenda, qui a Voice Anatomy. E allora, signori, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Spero che vi abbia fatto la compagnia necessaria per passare un po' di tempo serenamente insieme. E allora, oggi non do la linea a tutti i convocati, cioè gli do la linea a tutti i convocati, per carità. Cioè, non voglio sapere gli altri risultati, anche perché io sono tranquillo, visto che la mia squadra, incredibilmente, ieri ha portato a casa una vittoria. Ma a parte questo, signori, grazie come sempre. Passo la linea all'amico Capuano di tutti i convocati e noi ci risentiamo e magari anche ci rivediamo domenica prossima 9 ottobre proprio qui negli studi di Roma di Radio 24. Voice Anatomy. Grazie, ciao!